la Poponio e poi che avevo quello lì che mi hanno sequestrato e l'M300, però l'M300 si è rovinato, ci vuole il PTT. Franco ha detto che me lo dava, però ancora non me ne ha dato, così che niente. Tutto da 500, da 100, balle varie. Abbiamo le botte viste, e quelli erano già versati. Oh! No? Bambi. Ok, mi permetto però che a continuare a mangiare, va. Perché anche tu mangi, principe? Beh, ho fatto cucato oggi, vai. Ogni tanto mai, no, mi stavo mangiando due ricottelle che ho fatto da lui. Me le stavo mangiando, poi mi stavo mangiando un po' di pappucarno. Gappa gappa, vabbè, ma non ne mangiare troppo di quella cosa che ti fa ingrassare e poi ti ciuppa. Guarda a lui. No, non ne mangio tanto, ma ne mangio solo due. Vabbè, ma baracchino come sta funzionando? Quale baracchino? Quello lì che sto usando adesso. Quello che sta andando indietro. D'accordo. Mi sono dimenticata di dare le due a assaggiare Luca di ricottelli. Vabbè, già c'è domani, tanto domani non lavoro. Non lavoro, c'è domani, dai. Ho fatto ieri sera. Se tu dovevi vedere la roba, stai guardando. Ecco, pure lui c'era all'opera. E lui, è fratello, mi sa saltare. E la roba fa meglio di me la fatta. Si è preso più attento, dai. Domani se te lo faccio assaggiare. Prepara il caffè domani che venga a prendere il caffè, ma principe. Dipende da chi la viene perché domani sera dovrei uscire. Aia, io se vengo verso le 4. Devo uscire, verso quella ora devo uscire perché devo andare a fare una commissione. Va bene, dai, non c'è problema. Sarà per un'altra volta. Ok, sarà per un'altra volta. Ma io domani sera vengo alle 4, ma faccio io il caffè. Tanto ti do le chiavi della porta. No, alle 4 tu non mi vedi. Ti vedi bene di una magazzina, ma la sera devo uscire tu, basta. Cosa? Cosa? E vieni domani mattina. Domani sera devo uscire davvero, no? Devo andare a fare una commissione. Che è tu cosa? Roberta c'è lì. Cosa vuoi? Pompulio, la cazzo, Roberta, dai, Gigi. Cosa vuoi? È una mia amica. No, tua amica. Gappa gappa, sto contento. E chi va? Oh, è buona qua la femmina. Chi va Lugozzo va? Lugozzo. E chi va? Ma Gianni! Ehi! E voi come vanno sento. Ah, non me la finita. Non c'è problema. Ma cosa ti è venuto, il tuo o quello di Antonio? Ah, sto scherzando. Ciao Antonio, già, me lo sta controllando. Però la modificherai, ha visto? No, Antonio ce l'ha il mio, qua. E solo ce l'ha lui. Ah, se domani mattina la chiama quello. Ma come fa la cosa? Mi dà di Ludu. Se ti senti a te, mi dà di Ludu, qua. Scusa. No, lui, se tu cerca quella cosa, ti dice. Questo non ho capito cosa cavolo c'è, 20:50, mancano 21:36 minuti. Fatti vedere. Ma chi se va? Chi se va un dettagli specifici, blu, una poca roba, chi? Migliora la nave, non tanta più antenna e accessori per auto. Cos'è questo migliora la 80? Già, non si vede nulla, no, chi è? Io ho 69 va benissimo, è questo che sto usando. 69 va la bomba. Questo è il Midland AN80, compreso di antenna fornita di base magnetica per fissaggio su auto. In più compreso il cavo accendi sigari, per la rotazione e l'adattatore per l'utilizzo in casa. Potenza 4 watt, canali 40 MFM. Squelci, vendo, in utilizzo. Ma l'apparecchio funziona al 100% nuovo contattato di Bubba con Provenno. Per la macchina vanno bene. Me a Luca gli supportivi me. Ma pure una base magnetica. Luca, ma la base magnetica non è mia, e se mi dura un barrolo. Se mi dura a un barrolo, mi domenica, tanto la televisione domenica gli attorno. Tanto non credo che. Ma se vediamo. Ma non me ne metto più il furgone. Poi appena che è, vado e me la compro una. E me la tengo qua. Quando non lo metto in macchina o in furgone, però la piazzo. Dimmi Robè. Se la muore nella moto. Sì, la moto bombi. Va. E chi era quel mese la chiave per il furgone di lui? Di che è? Il mio, tutta roba mia, Non è che l'antenna. Ma quello di prima che avevi, prima di questo mobile, come ci avevi quello Midland tu? Cava, questo me l'hanno regalato però. Quanti ne hai? Due o tre di baracchine tu? Due. Ma avevi trovato marchio tu l'altra volta, prima di questo mobile, come? Quello l'ho venduto. Tu stai rivendendo, sì, lui è. No, l'ho regalato, dai. Ho regalato, tutto qua, gava, ripeta, Gianni, ormai, uno, due, aiuto. Ma io sto chiedendo, ci siamo dopo, ciao tu. Tutta la gran grande, ti metti la gran nella moto, me. Beh, andà bene. Ha capito, piatti per fissi. Per non dirgli un'altra cosa a questo Luca, io non so perché non ce l'aveva gli orecchie. Io gli ho detto che quel Milan che stava dicendo Claudio, che ha visto lì, che gli davano anche la base magnetica di pigliarselo, così aveva anche la base magnetica con l'antenna, l'attacca degli sigari e tutte cose. E lui ha capito fischi per fiaschi. Non ho capito male, guarda, siamo un po' buca binaria. Non ci pensare all'amore, quando viene da solo. Siccome sono di ballerina, poi l'amore già. Domani ci va, dalla negrette. Barrato. No, tiro una polacca domani, va. Gappa. È vero, gappa, anda bene, va. Luca. Uia. Non ti mangiare via della banca, me. Via della banca? No, non ti rimane in banca. Della banca, del lavoro. Ah, negativo. Negativo, vuole mettere una cassaforte. Basta. Ma te ne ha dato, Luca, tutto a posto? No, ne mancano i 200 all'appello. Come 200? Cosa te ne vuoi mandare per te? 300. Ah, non 150, ho capito 150. 150 me ne ha già dati. Levare dell'acqua là dentro, dare una pulitina, una spirata. Quello già fatto. Adesso la lucidatura. Dici 90 me. Che è tutta cosa, è tutta con le strisciate, gli ho passato pure un pezzo di golfo, un pezzo di cotone, golfo in lano, cotone, non mi sembra, ha messo. Non è uscito, ma meglio di così, cioè Roberto, non può uscire meglio, prima va già a si fa i cani, perciò meglio di così non si muore. Luca, un giorno ti faccio vedere la fotografia della barca mia quando l'ho presa, è la roba di 10 anni alla gamberta a Porto Torres. Dopo che non lucidato, tutti gli anni non è possibile, ma con cosa la state asciugando, lucidando sulla barca? La pasta brasiva. Sì, ma con cosa la la pasta brasiva? Oh, aspetta, lui. Ehi, arrivi qua. Scusate un attimino, me lo prendo, dai, che rivolta a me anche devo uscire. Dopo allora, confermato per domani mattina alle 9, d'accordo? Ciao a tutti, buon proseguo di serata che devo uscire. Basta, ci sentiamo, claro, buon divertimento. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo domani. Ciao, Tawa, buona serata alle Prusse, ciao. Ciao, ragazzi, avanti Mario. Ciao, Cla. Buon proseguo, buon tutto, ce la riascoltiamo. Grazie a tutti, ciao, ci sentiamo, ciao ciao. Con cosa l'hai asciugata la barca tu? Cosa l'ho asciugata? Cioè? La pasta brasiva l'ha data con la lucidatrice, e poi con cosa hai rifinito? Con cosa ho rifinito? Con niente. Come che niente? L'asciugata l'ha data così. Ma non devi basta. Che era qualcosa che ci dà opaca la barca, Luca? Cosa devo fare? Dimmelo, io non lo so, dimmelo, cosa devo fare? Allora, prima rimetti la pasta, la luce con la pasta abrasiva col tampone, e poi te la asciughi tutto a mano, devi asciugarla a mano, come ti rimetti, no? Non ti sei tutto a macchia, l'ho rifinito bene. E poi, se lo vuoi fare un lavoro di luce, mi dai la cera sopra. L'ho asciugata, roba a mano, cazzo, l'ho asciugata, te l'ho detto, con un golfo preso da casa in lana. E ho la passatina sia a destra che a manca. E niente, è uscita più recente. Ah, però non va bene, ci vuole il cotone, Luca. Con il cotone vuoi asciugare, un pacco di cotone costerà 10 euro, 3 euro per fare un chilo di cotone costa. E ne vai 40 le barche. Dico la Roberto, magari ce l'ha lui. Ah, ho già fatto. Adesso non ci sono più, prima c'erano, adesso non ci sono più. Tutto a posto, risolto quindi. Ma non è contento, non è contento. Tu mi vuoi con la barca, roba, com'era? Tutta, guarda, abbandonata in campagna, mio 5 anni abbandonata. E adesso praticamente è rinata con la barca. Ma di più non si può fare, roba. Cioè, ma lui non si rende conto di chi si rimettendi. E si lamenta pure che non va bene, ma vai. Ma il problema è che sta creando il padrone o quello Roberto? Okay. Roberto. Ma se ne dà tutti a Edu, il padrone è contento. Non so se il padrone l'ha vista, comunque ci sta bene secondo me. Va più che bene. A me non me l'ha fottito, domani mi posso dire di no. E se lunedì, no. Io lunedì non devo andare per nessuno a batti. A meno che mungi ancora, se no non ci vado. Ma tu gli accordi, se sono quelli che aveva le studi e basta, cosa stai a girarla? Infatti, cioè, se non andava bene. Non è andata bene, va bene, l'ho ripassato la ballerina con la spugna. Per lui me la faceva di quelle ruvide di spugne. E va bene, si stava mangiando la vernice. Ma gli ho ripassato di nuovo la spugna. Tutto i risolve, no, non te la fa. Ma che corrima non rilasciare l'hai fatto? Adesso siete perfetti, no? Perfetti, vanno bene, dai, prima erano opacchi. Come ti metto io con la razza che l'hai fatto? Ma io ho fatto una pasta brasiva con un pezzo di cotone, ma un pezzo di lana, un pezzo di colpo di lana. Sì, così mi sei stato due lì. Mi pensavo che la razza io ho operato un cotone umido di pasta brasiva e usciva la secchio, senza pensarti troppo. E ma già vanno bene, roba. Tanto con la barca devo prendere due gocce d'acqua e li mettere due volte prima. Cazzo, la conosco, mi ha detto Roberto, un Gubbi, motore entrobordo, Volvo Penta. Bravo, bravo, un entrobordo, bravo. Sì, la conosco, benissimo, ce ne sono una varia di quelle barche in giro. Il motore della Volvo, diesel. Sì, ce lo conosco, entro pure in bordo, si vede il piede che ne esce fuori, no? KK, c'è un motore, cavolo, guarda, un bel... praticamente un motore di macchina c'è, sotto. Ma è inutile il motore, magari è inciugato. Ma io ho visto che è un po' arrugginito. Ah, se la metto non c'entra niente, mi ricordate che giri che non si è inciugato, che non si sente attacco dentro. Sicuramente, dice che ultimamente stava andando. però è entrato il toppo e lì devono fare di nuovo cambiare tubi e tubicini. E c'era il toppo dentro. C'è un aspiratore, guarda, non dico un milione di aspiratore, c'era tutto cacca di toppo, era. Cazzo, ma bisogna stare attenti, mi disinfettarsi bene le mani, anche a me è capitata una cosa del genere, butto a calcolo da tutte le parti, lì sono fuori, se no è pericoloso. Ah, io spiegate il baracchino, Domenico. Buonasera, ecco il resti e ciao. Intanto spegne il barattino che qua se non faccio parlare più nessuno. Tiro. Ui. Ma passaggio. 1, 2, 3, 7, 20. Ciao a tutti. Prima rinnovo. Asse 9 e 10. Vedi un po' quanto arrivo io a te. Santiago 5. Santiago 5. Cazzo, ah, tanti di calimusso. Sei uno, sono arrivato in bassi qua a voi, non è che... Roberto addirittura, ciao me, lo ascolto basso basso, cioè il segnale quasi non arriva, e le radio gli sono in 4, riesco a toglierlo fuori. Mario, fai un passaggio tu. Guarda a me, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, brava, brava. Allora Mario, 7 e mezzo, quasi 8 modulati. Antennati. Tiro. Aspe. Chi sta fischiando? Vabbè, sì. Luca, sì. Però è basta ancora, non è come l'hai vista tu. Ah, l'hai visto per fare? Sì, perché la sonda veniva male, quindi l'ho lasciata così, appoggiata al muro. Niente di più. E non io la spiego a chi arrivo. Ma qua è migliorato parecchio, ti sei Santiago 7, diciamo, ottima radio, il segnale Santiago 7. Già va bene allora, già va bene, già sta andando. Sì, no. Ui. Sei presente che sono con la multibanda, domani ne riparleremo con l'altra antenna, ci arrivi già a 7 con questa antenna qua, è buono, tutto è buono. La nuova col palo la sto mettendo, abbiamo guadagnato 4 metri di più rispetto a prima e non c'è un tacco dietro, perché io non ci avevo di spalle la tomba delle scale, parole povere, mi chiudeva tutto dietro. Cappa, già va bene, domani ti voglio sentire un po' più alto, va? Se tutto va bene diciamo di sì, va. Cappa, Mario, ma tu ti sei abbassato però, tu eri un pochino più alto prima. Negativo, sempre lo stesso baracchino mio, ho cambiato il microfono, magari ha abbassato un po' la radio, c'è un microfono normale, quello amplificato stava dando problemi che l'ho buttato via. Provaci, c'è la radio, comunque sei sempre così, sempre otto, io mi ricordavo che arrivavo un pochino più forte. La radio sì. Perché c'avevo un microfono preamplificato, però ne stavo parlando problemi, mi hanno detto che stavo innescando, poi cambiavo ogni tanto, perché si aventava il mic dall'attacco e niente. Allora, cuidato, l'ho buttato via. Va bene. Sì, no. Ui? Ma tu che microfono stai utilizzando? L'MVP5. Infatti, sta una bomba, la radio è micidiale la tua, mi è eccezionale. È modificato, dai. Scusa, è occhio. È modificato. Modifica... L'ho fatto Claudio, quindi. Questo io sono l'MD più 4, diciamo come cosa è più o meno uguale. Tu c'hai tuni più di questo, no? Scusa un attimino, riprendo subito, già sono in corrisse, devo fare una cosetta qua vicino. Ma riprendi Luca. L'MB più 4 modificato, l'ho visto io. Cosa ha fatto il modifico? La tassa l'ha cambiato. Non lo so Robert. È una modifica che lui non vuole dire. Vabbè, se va bene allora. Questa radio com'è Luca? Forte. Sono a metà, 5 sono. Eia, va più che bene Robert. Va più che bene. Non mi ricordate che c'era l'altro giorno. Di brutto roba, questa qua molto più mi dà quella in verticale, Robè. Olla, olla, vabbè. Non si sente gli occhi. Olla. Ma sto uscendo? Opa. Sì che sto uscendo, Luca, come prima. Oh, non mi do poco, va. Senti, no? Forse va ancora su 41, questo ne prende un bel, invece il Mobicom, manca balla in biglia. Aspetta, faccio un biglio, va, ancora ne è. Adesso no. Vabbè. Vieni Mario. Quando la vernice si apre poco a poco, da che cosa è dovuto? Da sole? No, non si vede che aveva fatto la gargarda, che ha tenuto il fondo sotto. No, perché io ho la prua della mia barca che soffre un pochettino brutta, si vedono tutte tipo spaccature. Ah, se parlo della barca, non del coso, no, quello è il gelco, tu quella è un'altra cosa. Se non ne so io, non me ne intendono. Ah, vero, siccome, vabbè, d'altro, quest'anno me la utilizzo così com'è, poi all'anno 21 vediamo un po'. Mi spiego, allora c'è la resina, sotto la resina si dà un prodotto vetrificante, si chiama Gelcot, è durissimo, però è fragilissimo, se tu fai delle torsioni camminandoci sopra, infatti bisogna stare attenti, non camminare con le punte dei piedi, mettere il piede proprio appoggiato bene, possibilmente scalzo, così dura un po' di più, perché anche a me me l'ha fatto nel bordo della passeggiata della barca, si spacca, e non c'è niente da fare lì, a meno che non gli metti dei rinforzi e ci metti una camminata sopra in legno marino. No, perché diciamo che io lì sotto, quando sarà un giorno, adesso perché c'è l'impiccio anche dell'antenna, non che avevo portato a vederla, io sotto c'ho il serbatoio, così che non è che ci abbia oscillazioni o che cosa, capito? Sotto c'è il serbatoio. Ma che mi presento, che idea sulle torsioni che ha la barca, con i colpi del vento in mare, con il carico, del carburante, si muove continuamente, non è una cosa rigida, è molto elastica, è guai se non fosse stata elastica. Non me ne intendo, non ti posso dire una cosa che non... So che sbarzinate se ne sentono parecchie, perché quando accendi e ci sono poco di onde, quando salta, che poi scende, lo senti più, boom, sembra che ci sia uno sotto dando dei colpi di martello. Già lo credo, tieni presente che tutto il colpo se lo scarica su e non sopra, perché la chiglia è a V, là in Francia l'onda, e si scarica dalla parte superiore, le dilatazioni sono dalla parte alta. Ah, cappa. Vabbè Gianni, è rientrato? Oh Gianni, adesso sta preparando la cena, con la mogliettina, i bambini. Dopo che è cena entra. Ma no, io già ho mangiato, adesso ho già finito, mi ho fatto un panino e un paio di fesserie, due mandarini e sono gubbieno. Sì, con così poco. E io se non mi mangio un bello piatto di pasta asciutta. Oh, domani mi dimiso la banca. No, ma erano panini con polpette abbondanti, due panini già soffisanti, dai. Ah, cappa. No, pensavo che ti avevi mangiato due panini con questa fetta di mortadella. Ah, lì mi manco un bene in gocca. Gappa. No, e poi c'è quel serbatoio che vorrebbe rivisto da qualcheduno che se ne intenda bene, e solo che viene male a lavorarci perché praticamente deve lavorare coricato dentro la barca, capito? Che deve entrare la testa dentro con le braccia e vedere un poco, c'è il bordino esterno per fortuna che non è interno, il bordino esterno che gocciola poco, ma poco, solo che io fumo e niente, capiresti un po' qui, c'è la pura cicca dietro e pigliavo qui la vacca. Ma non è tanto la piglia a fuoco, l'esplosione, basta una scintilla di un contatto, mi ne vedeva quando ne sono scoppiate, non con la sigaretta al limite prende fuoco, la scintilla fa esplosione, quello è il problema. Gappa. Se va tu, io deve essere sempre collegato alla massa del motore, proprio per evitare le correnti elettrostatiche, galvaniche. Io infatti ho tutto collegato a massa, cioè tutti gli accessori, tutte le cose collegate sono attaccate abbassato in modo che non ci sia nessuna possibilità di corrente, di dispersione o di scintilla. No, ci sono, addirittura ci sono i carretti che attaccano per segnalarsi quando c'è il pieno, quando è vuoto, capito? Però io di quell'impianto lì non ci ho capito una mazza, perché l'ho visto, però quasi fa veramente pena come impianto. Ah, non serve a niente con gli indicatori, guarda, io ne ho cambiato il testo che cambia la fine, l'ho già sviluppato, ma ho fatto una stecca graduata all'antica, al filamento, non so quanti litri c'ho, e non è sbaglio. No, questo qui è un serbatoio grande, perché mi ti posso dire, allora tu immaginati un triangolo alto, cosa ti posso dire, almeno quasi 35 centimetri alto, largo la parte di sopra è all'incirca 90 centimetri, 80-90 centimetri, e la parte di sotto è intorno ai 50, e sale praticamente come sale la chiglia. Sì, quello è utile quando c'è il mare grosso, quando sta bisogno. No, anche io sono grosso, io sono 100 litri, ci ho salvato io a poppa di 100 litri in acciaio inossidabile, ed è una cosa eterna. Se riguarda il bagliamo, mi dirà, meno male io ce l'avevo già pronto. Il serbatoio ce l'ho a poppa con il coso, con il tubo di imbarco carburante, infilo la secca dritta dritta e mi dice quanti litri so, e sono molto più sicuro, perché l'indicatore non è sicuro, sballa, passa un po' con le varie e ti indica tutto alla farfalla. Cappa, no, allora è come il mio. Tu ce l'hai a prua, io ce l'ho a poppa. Ah, tu ce l'hai dietro. No, no, io ce l'ho proprio a prua, dove uno di solito ci mette i piedi, oppure si sdraia, c'è il tappo, e poi proprio sotto c'è il serbatoio. Tappa, tappa, diciamo come posizione l'ideale, perché ti stabilizza la barca, però se ce l'hai a metà ti crea problemi. No, no, no, è proprio in punta la barca. E poi c'è la cannetta che esce dal carburante col tubicino e ci sono i cosi dal galleggiante per segnare, perché cioè, come costruzione, come coso è buono, comunque è costruito dalla Volvo Penta, non è costruito da Picco Pallino. Ma lui da fregatura che non hanno fatto una acciaio inossidabile, in mare ci vuole solo l'acciaio inox, se è buono, non c'è altro materiale. Ma credo che sia in acciaio inox, perché mi hanno detto che è l'originale di quando è stata comprata la barca, però se non vedi è nuovo nuovo. Com'è che ripete? Dalla giunzione della saldatura, vi riprende? Credo che sia proprio dalla giunzione della saldatura che perda. Riesci a pulirlo bene, soffiandolo bene con l'aria, con un tubo d'aria, facendo in modo che non ci sia neanche un goccettino di vapore di benzina. Lui si può provare con quelle pasta che servono, saldati, acciaio liquido, provare piano piano, senza mettere troppo, se non si spacca, proprio facendolo penetrare dentro. Forse riesce un po' a tamponare. Gatto, c'è una volta che non è il serbatoio, bisogna scoperchiare la barca. E quello è stato una cosa strappata, prima di montare il coperchio di sopra, l'hanno messo sotto. Per tenere quello devi spaccarti la barca in due. Ma vedete se devi montare il coperchio. Perché è smontato il coperchio? Penso di sì, Ho visto che c'è tipo un rivetto, pure sopra c'è la gomma, dove urta, diciamo così, là. Per la burta, diciamo. Cappa. No, non lo puoi staccare, non è così facile, è un bel macello, mi scusa. Ma scusa, è uno che vuole togliere il serbatoio, come fa? Deve aprire, ci sono le barche, addirittura ce l'hanno dentro, nel sottofondo, devi spaccarti la barca in due. No, questo qui credo che sia sul coperchio di sopra, dove c'è la giuntura tra il coperchio e la carena di sotto. Bueno, adesso non ce l'ho presente, ma non lo so, non ci chiederei troppo. Ma perlomeno io, come l'ho vista io, vabbè che non è che l'ho guardata poi molto, ma comunque. E poi, quando sarà, bisogna che la prendo in mano e faccio fare bene l'impianto elettrico e bene anche la vermicatura, anche perché io, anche se ce l'ho in capannone, l'ho coperta, non entra acqua dentro. Ma tu stacca batteria non te l'hai messo? Sì, cappa che ce l'ho io, la stacca batteria dentro. C'è la batteria o la stacca batteria? Uno solo l'hai messo, la stacca batteria. Quanto devi rimettere? verso due, uno dalla mandata del motore fino alla batteria, il primo, e poi uno successivo per evitare il rientro di corrente. Io mi ho bruciato una costanaglia, Lucia, cos'è? Per un rientro di corrente. Vabbè, può darsi pure che il guinzato sia stato fatto male ed è passata corrente lì e non doveva passarsi. No, io ho lo stacco a batteria, c'è la batteria che parte, no? Siccome c'è un separì in legno, e lì ho fatto un buco, gli ho messo un bullone passante, ho messo lo stacco a batteria lì, con i cavetti, tutto quanto. Quando stacco però corrente non venne. Sì, ma lo sai cos'è il problema? Se tu prendi l'alimentazione da dopo lo stacco a batteria, per esempio attacchi le costandaglie o qualunque apparecchio, il motore quando sta ricaricando la batteria, anziché tirarti fuori 14 volt, te ne tira fuori anche 18, e ti arrivano delle sovracorrenti agli strumenti, e sa, io ho fatto danno. Gappa, no? Quello lì allora è un casino, vedi? No, vabbè, io non c'ho un ecoscandaglio, non c'ho nulla, c'è le cose per attaccare il baracchino, la bussola, c'è anche lo spinottino per attaccare la bussola alla corrente, là, per poterla vedere di notte, che sono le luci, che però non ho mai controllato perché io di notte non esco. Ah, ma facciamo riprendere agli altri, se no stiamo monopolizzando. Chi c'è? Tino, Luca e Gianni, uno dei tre. Luca, ci sei? Gianni? Tutti muti, Tino, ci sei tu? Mario? Non ho nessuno. Comunque sto andando al discorso, ma tu vuoi dirti lui, autonomia, hai bisogno di autonomia, sai? Bisogno di autonomia, di che cosa? Per avere tanto carburante, hai necessità di avere serbatoio con tanto carburante o ti bastano quelli da 20 litri? No, ma io ce l'ho anche serbatoio ausiliari, ne ho due e me li sono comprati. Anzi, uno veramente me l'hanno regalato da 20 litri, poi io ne ho comprato un altro da 10. Ma dico, se non fai grossi tragitti, tanto tu mi sembra che hai un 25 cavalli, ho capito, così è. Cappa. Appunto, dico, grosse con 20 litri sta tutto il giorno girando. No, che già consumano, puttinoso. Ah, vero, già consuma, non è così semplice, no? Poi io mi allontano pure un bel, l'ultima volta che l'ho pigliata mi sono avvicinato quasi alla Sinara. Cappa, no, io non so quanto mi fa ora, 30 litri all'ora consuma il motore mio, è pure di più, un 25 ti fa di media sui 12 litri all'ora. Quello lì non lo so perché io me li attaccavo sempre tutti e due perché non è qui il mare e dire che mi è mancata la benzina, capito? No, non bisogna mai rischiare, io infatti sono sempre preoccupato, prima di uscire sempre attento, non mi allontano mai, a meno che non so tanto carburante, e soprattutto se devo allontanare è meglio uscire con un'altra persona. Poi mi è capitato, quando stavo con Gommone, 12-13 anni fa, un problema. E ci hanno sbattuto di scorta, ho dovuto fare la rimonta perché c'era la mare in burrasca, stavamo rientrando e non si poteva entrare perché sennò mi sono sbattuto la rocca, è entrata Santa Teresa, e lì mi sono fatto rimorchiare. Non ho fatto il tempo neanche a mettere l'altro sbattuto, talmente era brutto il mare. Ma è gappa, no, io quando mi metto in mare, stacco la pompetta da uno e attacco all'altro, è sempre lì pronto, capito? C'è il rubinettino. In modo che quando non c'è la pompetta non lasciate la benzina fuori, perché sai quando si balla la barca può sempre ondeggiare e niente. Allora per mia sicurezza gli ho messo un tubicino con un rubinettino di quelli di plastica, però la benzina non la butta fuori, capito? Stacco la pompetta da una e l'attacco all'altro, apro il rubinetto e via. Cappa. Luca, ci sei? Mi sa che sono andati tutti a mangiare. Tu ci hai mangiato là? No, io sto aspettando il grighellino, che ho provato a chiamarlo, ma non me ne risponde, Ma tu sei tuo figlio, Mario? Come? Tuo figlio sta studiando? Sì. No, ma le superiori che scuola, quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha fatto 15 anni, ne ha perso due, uno perché è nato in gennaio e uno perché l'hanno bocciato. C'erano 15 anni ed è in terza media. Ma quest'anno finisce il corso, il diploma di terza media, il diploma di media inferiore. Sì. E per l'anno 21 c'è scritto al nautico. Al nautico, nel terziato di Belgio Novari allora. Appa. No, già la bella scuola, c'è un mio nipote di lì, però c'è da studiare, è un po'. Non è semplice, da. Vabbè, in tutti i campi c'è da studiare. Se vuoi fare perito tecnico, devi studiare. Se devi fare meccanico, devi studiare. Se vuoi fare l'elettrauto, devi studiare. Per tutte le cose bisogna studiare, Robè. Non si regala nulla a nessuno. Se lui vuole, siccome l'ha chiesto lui di andare al nautico, perché io gliel'ho fatto questo ragionamento, e anche lui mi ha detto la stessa cosa, ma in qualunque scuola vado c'è da studiare. Ah, pagata, però il nautico non è sempre, se ci sono scuole più facili o altre meno facili, il nautico sicuramente è una scuola difficile. Ma non credere tanto, non basta che uno ascolti la lezione, che si applichi un pochettino, penso che sia facile, perché io da piccolino, anche se non ne ho fatto scuole, perché erano altri tempi, però io passava che ascoltavo la lezione e ricordavo tutto, capito, e non mi sfuggiva nulla, perché ero molto attento, però Dio ha voluto così che non continuasse le scuole, boh. Pagata, però c'è la fregatura dell'Africa, il dottore se non è vicino. No, ma per quello non è un problema, gli faccio l'abbonamento del pullman, lo accompagno quindi al portatore, io stesso andando a lavorare, lo lascio lì alla fermata del pullman e si piglia il pullman. Qui come dice dalla bretella c'è la fermata del pullman lì vicino a devi l'auto e niente. Ma dico, non è la stessa cosa di essere a Sassa, dai, devi fare 20 km da là e 20 tour là. Ma è tutto non si può avere dalla vita, no? Lui ha deciso così, per me mi va bene, non è che... Perché intanto lo studio serve a lui, non a me. No, ma questo gli piace, i sacrifici già vengono più leggeri, dai. Campa di positivo. Ma tu era se l'avessi mandato in una scuola che non gli piaceva, così era ancora più. Perché purtroppo succede quello, dice tu mi hai obbligato, ma a me non mi piace e rubucciami, perché io ho il figlio del mio compare che ha 22 anni ed è ancora facendo il quarto anno al coso lì, all'industriale. Oh, ma cosa c'è? Non va acceso sotto, Mario? Il televisore. No, sembrava che fosse sopra, gente parlando sopra di te. Tieni la portata senza parlare. Affari tui. No, c'è la gente sopra, perché sentivo delle voci parlando, due maschi sentivo parlare. Ma qui c'è Puppo che sta tanto. No, non era, allora c'è la gente, magari c'era qualche sguardo qua vicino di qualcuno forte, perché sentivo delle voci di due persone parlare, però non è televisore, è molto importante avere avviso. Kappa, non so cosa dire. Capito? Per tutto ci vuole lo studio, e per tutto se una cosa piace viene più facile, no? Kappa. E mai lui? Veloce. Ogni tanto sparisci tu, ti hai chiamato due russi. Stavo facendo la spremuta all'arancio, roba. L'ho sentito, stavate chiacchierando, l'avete spostato. E già l'hai rientrato? Stavo mandigando. Era attivo poco fa, un passo. Sì, no. Penso che si stava allontanando che doveva fare cosa. Tiro, passa la palla. Luca. Olbia. Ma che cosa sto utilizzando adesso? Originale. Sono una bomba che sta in radio, che mi riesce a suonare. Non so. Come sta ascoltando, non ti posso dire niente. E ora mi come a riparare. Ma è rotto per te. No, vabbè, a riparare, oddio, qua fallo controllare per una cosa, va. Ah, vabbè, ma lei continua bene o lo studi? No, lo lascio, costa 70 euro la scheda. No, sto dicendo Mario, perché ha voluto questi togliere per eliminare i problemi. Com'è? Di lui cos'è Santullo, che ha fatto bene o contro? A cosa ha fatto bene? Ecco, non è stato inserito dopo. Ma come ci me l'hanno mandato? No, ma dico, è una cosa originale dell'apparecchio o è stato messo una modifica? No, è stato modificato. La modifica ci vuole una bellezza di 120 euro, solo di modifica. Tra scheda e modifica, 120 euro ti prendono. Ma tu la devi dire, l'ha apparato, erano tutti qua, Claudio, Luca qua, prendi questo, quello. Non va bene perché quel mobico. Sì, vabbè, meglio avere sempre qualcuno in più, capito? Cappa, cappa, ma poi non va quel mobico. E allora? E in quel video andiamo a volare. E allora? Il migrante quello che mi hai fatto vedere stamattina, quello lì che sta usando adesso. Cappa. È uguale al mio, però la metà è il tuo. Gli mancano due spazi, perché Mickey Game, quella cosa lì non ce li hai, RS Game e altri due o tre spazi, cioè. Però è preciso identico come colore, come tutto. Tu c'hai l'RS Game, il Mickey Game, tasti dei filtri, è un po' più grande il tuo. E tu hai 40 canali il tuo, fuori a 34. Poi vabbè, insomma siamo lì, dai, è sempre di quella casa lì. Sì, è identico, l'apparato è identico, cambia soltanto, c'è questa funzione in più, però la potenza, lo taglio finale è tutto preciso identico. L'unica cosa non mi piace di tu baraccino, non so cos'è, che c'ha l'interruttore dell'accensione vicino al microfono, hai visto? È una gagliarda, cioè io ho visto altri baraccini che ce l'hanno di fianco il cavo del microfono, lì proverà così. E poi il cambio canale è una cagata, è troppo duro, non è, cioè, vuol dire, sono proprio per play, faccio fare i quattro canali avanti. Lo so, però c'è il mobile come le posso girare, dal tasto e dal microfono. Beh. Avanti. Buonasera, dai, dottore. Mario. Mario, c'è? Dimmi Gianni. Guarda, ti ho buscato un altro di MP3 per Car Claudio. Ho buscato un altro adesso, un 30 euro. Kappa. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao, ciao. Comunque, se vai nel mondo, cosa tutti non vedo, non lo vedo. Vabbè, quel paese, come è andata a finire? Però lì sono sempre il migliore, offerente. Quanti giorni mancano? Due giorni. Ma non vi faccio più, se lo prendo così è bene, se lo pazienza, no, non ci voglio spendere tanti soldi. Peccato mi serve un microfono 3000 adesso. Ma da tavolo o da palmare? No, palmare, palmare. Come mai? Perché non esce di là 3000, non esce troppo basso. Tu, ma tu quello che c'ho, quello di palmare, adesso sta parlando bene, avanti, mi intendi, è basso basso. Ma lei vuole aperto la LC già? Con la figura. Dai, Antonio, no? Ti fai aprire l'LC e basta, no? E si è a posto. Perché comprare i microfoni? Che per una di quanti hai i microfoni? No, ne ho due, quattro ne ho. Quattro. Infatti, se mi sono per questo, già è rotto. Il tasto mi si è spaccato. Infatti, l'ho riscaldato con l'accendino, gli ho riattaccato il prezzo e... Se schiaccio forte si spacca di nuovo, infatti devo buttare il tasto e non si può neanche questo, non devo rimediare il microfono così, perché ce l'ho io un altro qua, c'è anche il tasto nuovo, ma non l'ha ciappo. Luca, via. Questo che sto usando adesso, l'originale, quello scuro, diciamo, verde scuro con il coso cromato il microfono. Eia. Ah, io l'ho fatto con l'LC e basta. La villa, cazzo, sei amplificato pure. Buono sto roba. Non lo so se esce bene, esce male, ma com'è cupa la radio chiara, com'è? A me mi piace, perfetto, meglio di quello che ho letto, sinceramente, a me mi piace più fuggire la voce tua. Ma io ho fatto effetto con l'LC e ci mette tutto. Tutto l'hanno mandato. In tre eravate. Ah, tu. Antonio? L'ho fatto. Non ti rispondi, Ciuga. Mo' pigliate il muscio. Ah, tu? Va bene. Andare. Ripeta, Mario. Ma io credo di chiudere le mattine. Ancora non avete capito, capo? È venuto o l'hanno mandato? Sì, non posso sentire un secondo. Certo, signora. Andate una volta. Io. Cosa vuoi grimbare? Cosa vuoi grimbare? Agita, agita che ti trovo anche oggi getto subito, agita. Preparatevi, portate a vita. Forse la radio di casa, di Tino domiciliare. Mario. Sì, sì. Non meglio della mia la radio di Tino, io qua te avrò arrivo attaccato l'amplificatore. Ah, io l'ho avuto per fare. Crepare, aiuti. Compro, vendo, compro. Allora, se non sarò il numero uno in trasmissione, sarò il numero uno in ricezione, non vi farò ricevere. Compro, vendo, compro, lineare, vai. Luca, com'è, com'è? Tower, tower. Ma c'è un microfono ma di patato che si attendeva. E quale? Che si ci attendeva? Io già ne gioco io. Ah, siamo già in due, questa è radio vera. No. Ecco, vabbè, ormai è classico, sono cazzo di una vita che ti ascolto sempre con la solita. Quando cambi microfono, non pari manco giù. Sì, ma guarda il segnale, guarda. Giù mai cazzo, il circuito di tutta la trabassi. Guarda che bella la radio di Fabio. Oh, sì, io sono abituato a sentire la tua, perciò no. Se cambia, non mi piace, no, a lui non va bene, capito? Allora, che questa qui non è la radio di Claudio, questa qui è un'altra radio che lui sta provando. A me al coso mi sembra il segnale, mi sembra la radio di California. Perché a Luca gli piace questa la radio, vero è Luca? Ecco, questa qua è la radio, sentite? Anche la tua ci mancherebbe, questa è sì la radio. Vabbè, ma io non sono a casa, lo so voi. Ah, vabbè, non si succedono niente, tra, io ci mancherebbe. Ma la chiamo sto usando il 548. Oh, aspetta, sono attivi, vai, che mi saluto, che è arrivata gente, devo andare a papai. Ciao Tino, buonasera. Ciao Tino, buonasera, ciao, buonasera. No, è l'altro che c'ha Franco sto usando, capito? Cosa stavo dicendo? Vabbè, tu sei abituato a sentirmi, perché la mia cos'è? Meno forte di quella di Tino era a casa. Grazie, Claudio. No, non ho sentito. Ah, Muffi, Tino, vai Muffi, mi si senta. Ma io dai, fate pure sì. Tino, tu con un po' si scusa. Aspetta un attimino che c'è uno che ci vuole salutare. Buonasera a tutti, ciao Claudio. Bella. Oi, ciao. Buonasera, ben sentita, bacione grande grande. Ehi, comunque tu non vuoi sentito, non c'è, avevi un barbasso qua. Lo so, sono piccolino, oramai. Babù, ciao pure di te. Ciao, Tino, ciao a tua mozzere. Alla prossima, ciao ciao, avanti Mario. No, è la mia sorella, ciao. Ah, tua sorella, vabbè. Sono la tua moglie, scusa. Avanti Mario. Ciao Tino, buona carica, buon tutto, ce la riscoltiamo più tardi eventualmente. Sono tutta le prossime. KK, riprendi Claudio. No dai, io non sono a casa, ci sentiamo semmai dopo. Salutoni a tutti, cordialità, baci, abbracci, ludi e squisitezze. Bye bye. Io vai, va via. Vai, bravo, mica vengo lì e ti metto la portante. Niente, sto arrivando adesso. A parte il fatto che sono a dieta, quindi non posso neanche bere. A dieta uno non mangia, dieta non beve. Fatti furbo. No, no, io non mangio e non bevo. Acqua e pizza stasera, finito. Lastri. Come? Lastri. Io acqua e pizza, no, niente da fare. Vabbè dai, vi saluto. Comunque Luca, mi hai boh, non lo so, insomma questa radio non va bene da qua. È chiaro, ma sono abituato a sentirti col microfono tower, capito? Ma bucaria. Questa. Parla la tua radio, tu sei brutto. Sei lì che parla di quella macchina mogliata. Mezzo che c'è già combinato, visto, no? Che le antenne sono attaccate, sì, perché questo è pericoloso. Ce l'abbiamo l'antenna, sì, ce l'abbiamo, vabbè. Dai, al limite ci sentiamo dopo. Beh, da casa il microfono è uguale, ma la radio è diversa. Ciao a tutti, QRT. sì, bye bye. Infatti, sicuramente anche per me, lascia caro Mikey Gay, che ero troppo vicino. Sono sotto camera. Fabio. Allo. Non è che c'è il conto di ritorno, c'è solo i saltati vedi, tutti, manca tutto la, il basso e gli acuti. Ma solo nasale. Ma quando arriva Lucy Smith, Claudio? Rimbarro. No, sei 45. E io rimbarro. Tu sei 30. E io sono 20. E tu sei Cantelluca. E io sono più piccolo di tutti. E tu sei 40. Non partisce da Maraguanta. Programma San Trimba. E già per te ti hai preso 3 Yankee 0 dall'Antartide. Non mi interessano a me le trottate di Salvatore. Già lo sai. A me mi piace parlare in radio, non stare lì, 5-9, trick e track, su e giù, e vamo San Trimba qui e vamo San Trimba là. C'è anche altra gente qui a casa, sono gli americani che hanno quegli armadi. No, non mi interessa Natali, io collegamenti di ex non ne faccio, no, non me ne frutti nulla. Mi piace avere tutto, ma parlare diversamente. Okay. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo più tardi, statemi bene, di nuovo baci e abbracci a tutti, che sono qua a casa di Franco, e menaggi buon andare, ci sentiamo dopo, ciao. E ce ne siamo accorti, ciao, buon viaggio. Felice ritorno. Ciao War. Oh, a tu, ma che te mi dici? Ma non mi sento poco male, detto, non ce l'ho fatta, l'ho aperto, però ho visto sì qualcosa, ma non ho fatto niente apposta niente perché mi hanno chiamato e sono dovuto andare a fare un intervento. Va bene. Andare. Ma io e tu, cosa mi hai detto a me? Fai memoria, cosa mi hai detto ieri sera che sei andato, no? Ma a me che dice? Allora se vuoi risendi. Mi hai detto fai memoria che sono andato da? Vaffanculo a Franco Gatto. Io mi sicuro, ma non vuoi a Puscia. Avete parlato in tre. Ho detto, mi senti? Sono di parlare sopra, sì. Chi è che parla sopra? Ho detto, ieri sera cosa mi hai detto? Io sono da qualcosa, ma di cosa, non so cosa ho fatto. Chi sei andato là? Ma a vedere qua? Dimmi dove sono andato, dimmi dove sono andato. Pigliala in culo, tu. Cosa metto io? Sono stato a Maria Luisa per il lavoro. E tu? Ma come mi sei andato? Ma vai! Mi è macca. Ciao, piccolo. Ma che figlio, amo quelli. Ma ti faccio una cosa, ma lì faccio casa di canna, non la c'è di sotto, no? Ma arriva, mi dice che non c'è andato, io non ci sei andato. E va bene, no, non c'è problema. Cava cava. Ciao piccolo. Ciao, non faccio andare con l'auto, non mi dici. Ma io gli ho detto, ma tu l'ho venuto ieri. A chi l'ha visto? E sicuramente ti avrà trovato un'altra porta. Sono detto a me che è venuto a vedere un po' la situazione. E poi niente, no. Vabbè, non me la fatti nuda, tu mi hai detto con Giro, gli ho detto di mettere, non ti ha visto e niente. Cavallo la Marocci. Ma non so, ti manda a te. Ma qualcuno mi manda dall'autore, eh? Cosa ne so, tu, balla mi ha detto, balla ti dico. Poi balla mi ha detto tu e balla gli ho detto, io risolvo. Ciao a tu. Ciao Mario, sì, stavo mettendo una per il video. Ciao, per ascoltare anche a te. Sennò vi mando a quel paese. Ciao Emilia, fatti dare la tromba da bar. un po' male, il mio lo pronuncia meglio. Luca, perché è più facile. Forse però lo dice piccolo, piccolo. No, lui dice a tutti piccolo, lui. Come mi dice, ciao, Torre, Torre. Roberto. Dimmi. Ma non si mangia oggi? Ho già mangiato, ho due panini di mezzo curvato, non ho fame. Due panini di lasciata? Non mi sono pensato. Due panini di lattugiato. Ah, Robè, capisci a me? Per quello che lo conosci a Roberto, eh? Cosa dici tu? No, infatti, per quello che lo conosci, è una gava. Non mi stai dicendo che non lo conoscevo, vuol dire che non mi conosci, ma sei pensato. Ma lo conosci per quello, non lo conosci per altre cose. E non ti basta. No, vabbè, già metto. Guarda, come pensavo lo conoscevi perché fa quel tipo di mestiere, capito? Ma prima di vita la conoscevo, ma poi la figlia è sola con mia figlia, sono insieme in classe, Isabella, la piccolina. È nata l'una. Vabbè, dico, la piccolina. Andare, andare, andare. Gava, gava, gava, rocci. Vabbè, signori, siate bolla, che me ne vado tutto a letto. Non mi guardo un po' di TV. Tanto la guerra l'ho fatta stasera, quindi. Basta a radio, non è quello che ci a te. E prossima domani, Isla. Ciao a tutti. Ciao, Natali. Ciao, ciao, Natali, alle prossime, ciao. Ciao, buon riposo. Panni, bla, doppio room. Ehi, sto ascoltando, tanto, sono un po' stanco ormai, mi ascolto. Ma mi state dicendo, l'hai preso tu, e dove l'hai preso? No, l'ho visto io uno, 30 euro. Ti ho telefonato a Claudio, sto libero. Ah, KK, poi ma Claudio non è a casa. Quando mancano 6 ore, fa. Mancano 6 ore, praticamente che la finisce a mezzanotte. Non lo so, non ho guardato che ora era quando c'erano 6 ore. Non ho guardato che ora finisce, però mancano 6, 7 ore, 6 ore e mezzo per fare, 6 ore e 20. Ce la fa, eh? No, perché Claudio è ospite d'onore da un'altra parte, a casa non c'è. E a casa non stanno già al computer, non posso manco entrare io, posso entrare. Sto facendo dei compiti, mia figlia, se lo sta usando. Vabbè, casomai prima di andare a letto ci dai uno sguardo. Thank you. mi dà un po', non solo mi piace la mangiare, così no, mi libera che le taglie ritagliate e piace potenza un panino. Anche nel cavale? Sì, anche sì. Sì, oggi è domenica, prima domenica rimango qua. Ah, ciao. Ho capito. No, perché se no se lo sapevo che avrei portato a regolarmi con lo Schmitzer. Poi già, ma sono stato l'ultimo con questo paio. Devi scendere giù, normale. Ah, tu. Oh. A proposito, guarda se riesci, se ti viene bene, a regolare con lo Smith, che è un po' cane morto. Lo so, però lì è un problema, anche lì è cane morto. Lasciamolo cane morto. Luca, ma se stiamo di mezzo adesso l'apparato? Ah! Ma guarda che c'è comunque l'apparato, quello che ti ho fatto da lì. Già, se non ti capisco, abbassa un po'. Abbassa un po', avanti. Dimmi, c'è quella parte, pensavo di prenderlo, quello che ti ha fatto arrivare da internet. No, ci vendi proprio Luca già. Quello rimane cacca. Ma meno male. Ma no, perché poco fa mai che te lo entravi venduta, però se c'è detto di prendere. No, è qua, che è qua, c'è Antonio adesso. Ma Anto, se da domani che il laboratorio non ci scendi? Non lo so, quello sta facendo il New York. Ah, il tuo stai venendo. No, ma non è che mi interessi, volevo sapere se sia stato lui, quel cane morto. No, io semplicemente, qua si dice, ho trovato qualcuno che non poverino, questo qui. E se ne sei andato a vabbè, questo. Eh? Questo che sei andato adesso è anche tu. Ma non è il mio quello. Ho capito il suo, ma cioè, se sta volendo quello che sta andando adesso. K, e Antonio si sta vendendo tutto. E Antonio vende, è affarista. Prende, vende, ricompra. Sì, qualche volta raccatta perché non funziona, perché quello, perché quell'altro. Poi magari riesce a ripararlo e se lo vende. Chiamalo. Chiama, ti vuoi chiamare? Ma chi vuoi? Chiama! I furi lo zaglio. Quello zaglio è una troppa. Figlio, sono il mio. Sbronza, ma di sbronzi a livelli No, io la mattina massimo che mi alzo 8:10. Fai 8:30, fa proprio andando male, ma più tardi no. Invece ma non sbagliare sempre così. Io mi alzo e mi lavo da una parte, mio figlio invece si fa la doccia e poi a scuola. Kappa. Andava allora, andava. Presto, domani. Vabbè. Niente, mi stava facendo una cosa, non si può dire qua. Kappa. Domani al lavoro, come tutti i giorni, però fino a mezzogiorno. Ehi, andava. Ma pure domani lavori, Mario? Kappa, fino a mezzogiorno, domani mattina devo consegnare un serbatoio dei radiatori. Scusa, salviette giù a muore. Però a mezzogiorno è tutto finito e andiamo a casa. Ora c'è tu un dirli cassonato o cabinato? Cassonato? Cavagava. Abbiamo bisogno della cassona per caricare le caldaie, per caricare i serbatui. Quello chiuso non entrano, i serbatui, le caldaie, rombe male a caricare, invece quello cassonato apre la sponda e butti giù. Infatti. Cavalocci. E a caricare, quando sono cose pesanti, si caricano col muletto. Sta male le cariche. Si vuole il muletto, e va bene. Passiamo di mattina, andiamo i gastucci. Però, un po' rimasto, sono rimasto di merda, Dai, Emilio, se ti aveva la sessione di stasera, se mi è andato in gioco a ballare, a fare, e domani mi fanno due ragazzi di là. Ciao, a ballare, io esco d'estate, io però vedi, d'estate che non è mai con birra, a voglia, mi sento metà rotti, luna, cando un muro dalle due, no, di inverno non mai, poca roba, meglio risparmiare. Tanto, ora sei anch'io una pastitina, vabbè, un lì non lo sa fare, è sul locale, bandi, si pigli due goli, si quattro euro uccidi, si volano. €50 manco li vedi, io mi ho chiesto €100 l'altro giorno, e tre dì, non mi sono più di là. Vabbè, compagno di rompare, vai a Pisa, boh, mi faccio un più di là. Come è stato 250 stasera, sta mercato, io Mario. Vabbè, ma tu sei milionario, davvero, tu entri, ripari, boom, vai, surgi a destra, surgi a sinistra, è diverso. Io ho quello stipendio, o che lavori molto, o che lavori poco, sempre quelli lì sono. Non c'è nessuna differenza, guarda. Così che, non è uno stipendio un bel basso. Mario, però se tu oggi ti senti male, non ci vuoi lavorare, ti paga, a me non mi paga nessuno. E tu ogni mese direi che se io non trovo di lì, in un mese a me che si vede non me la pagate nessuno. Kappa, vabbè, ma pure è vero, però è tutta una musica diversa, dai. Vabbè, è tutta una musica diversa, purtroppo, però è così. C'è il pro e il contro in tutte le cose. Vabbè, in ogni cosa c'è sempre il contro. Sì, veramente io posso guadagnare anche 500 in 3 giorni, posso anche guadagnare 200 in un mese. Kappa. Dipende da come gira il lavoro, a tu, per te, che sei un libero professionista. Io sono sotto principale e i soldi sono sempre quelli. O che lavori molto, o che lavori niente. I soldi sono sempre quelli lì. Però non sei sicuro che per i mesi c'è contatto e si può basare su quello. Vabbè, ma il fatto è che io sono da solo e ho un bel di cose da pagare, c'è affitto, luce, gas, quello, l'altro, il bambino che sta andando a scuola e quando gli serve una cosa, quando gli serve l'altra, e non è che puoi fare chissà che cosa, Lo so Mario, purtroppo bisogna fare sacrifici grandi. Oh, non è che sto piangendo, No, no, non mi fraintendete, però voglio dire che da una situazione a un'altra le cose possono essere diverse. Magari uno dice, sì, sei da solo, no, non sono da solo, che c'è pure il padrone di casa, che gli è andato a passare il giaburo. È così, Mario, purtroppo, sì, no, lo capisco, non è che uno si mette, però, dico, se ci fosse stato qualcosa in più sarebbe stato meglio. Di positivo. No, ma non molto, no. Bastavano anche 300 euro in più, sarebbe stato quasi a doppio, però purtroppo sono quelli, boh. E così che non è che devo sempre stringere, però tu ti fai i conti, ti togli le spese, che su quelle lì sono fisse, e ti trovi giusto giusto, quindi non è che puoi dire esci che allungo poco a poco, a chi si allunghi poco a poco hai meno. E funziona così. Gianni! Cappa cappa! E così è. E poi da quando c'è questo cavolino non si può più comprare. Che con 250 euro così il colpo senza manco capire dove ci sono usciti. Già, purtroppo è così. Io, guarda, quando vado a città al mercato che c'è mio figlio, me ne tremoreggio. Perché? Ma io ho visto le scarpe, e va bene. Passiamo dove c'è la roba elettronica, ma se non compri un gioco per la prendiccio, e dovrebbe essere... Cioè, sembra che è poco, perché uno dice 30 euro, 20 euro, non male. Poi quando arrivi alla casa e chiedessi a gestionare, ti si sono usciti 250 euro, 300 euro, ma cosa ne accorgi? Sì, poi ci sta al mercato, ti frega, perché compra anche il consulto. Ah, perché trovi tutto, e tutto quanto lì, sotto gli occhi. Questo mi serve, quello mi occorre, e inizi a comprare. E ti frega così. Molte volte mi andare nei negozi, se non manco non fai di nulla, vedi se non sai cosa e buh, e stai subito. Ehi, ehi, allora mi sto parlando un pezzo di zili. Almeno, poi televisione ogni tanto ci vuole. Tanto se prassisce in camera, roba e due anni. Sempre, sempre, io sempre accendo la televisione rimane. Io mi sento troppo quando mi dice la sigla, Luca. Andiamo con i romalacchini, non mi divorci, ma di città, non mi divorci. Pure metto con il timer, un'ora, un'ora e mezzo. Vabbè, non mi si dormiva, si curava la giura. Cazzo, no. Andiamo con c'è questa roba quadrata, ma questo, sì, sì. Sì, campa, sono col portatile, ma sono molto più basso di radio. Ma non è cambiato niente. Sono col portatile, ho detto. Secondo me non è cambiato niente. No, la radio sto parlando è molto più bassa rispetto a prima. Ah, guarda. Come a tu? Aspetta, Roberto, secondo me è uguale a prima, io boh. Adesso l'altro c'era il microfono amplificato, questo è solo il microfono del coso, del portatile, non c'è niente. Ma no, non stai uscendo male, con l'altro sì, si sente tanto di più, ma niente di esorbitante. Ah, stavamo parlando di apparati, tu ora c'hai roba fissa, apparati fissi. No, io fissi non ne ho, tutti veicolari. No, no, niente, non te ne capitano di quelli fissi. Ma che stai scegliendo il vino tu? Come già? Ma mi stai scegliendo il vino tu? Facile, pare. Sì, sono il sopra il capo, il poi il file, il poi il 75, ma quello lì è mio, è male mio. Ma cosa me ne faccio, cosa me ne faccio già dove c'è il canale? Venduti e questi comunque non è che 50 le 200. Qua Sassari. Allora, questo lo 120. Ma io ho visto uno 6170, ma visto eh? Mancavano 3 giorni, l'ho visto anche io, ma mancano 3 giorni ancora. Era uno sulla rivista, però l'avevano già venduto nuovissimo, 150 euro, era spettacolare. Proprio cioè, da privato però, non da eBay. Per la sua attiva l'avevano già venduto. Anche un amico mio l'ha venuto nuovo, 150 euro, quello che ho. Ma che è altro paragonabile con l'apparecchio, come tipo di caratteristiche? Non ho capito, non ho capito, perché c'è mai una sta urlando. Con quale caratteristiche? Cosa si trova in commercio del Galaxy? Tutti quelli che non si chiamano Galaxy, che sono uguali, Alan, c'è una pagliette, c'è una con i tre strumentini e col canale e il regolatore di potenza. Sono due, non tre. Vabbè, due o tre, vabbè, adesso non mi ricordavo bene. Con la regolatore di potenza, il frequenzimetro e i canali. Sì, sì, uguale, c'era un modello a 5 bagni e un modello a 6 bande. Poi l'ha fatto un sacco di abbiamo fatto tutte le case. L'ha fatto la Aram, l'ha fatto la Intec, l'ha fatto la Fayette, io l'ho visto di tutte le marche. Identici, sono, cambiano solo le marche. Sì, mi sembra ancora una paghetta, quello che si inizia era un argentato, o una cosa del genere. Sì, argentato era grigio, metallizzato. Ma anche lì non si trova niente. No, ce l'avevo un amico mio, gliel'ho chiesto, ma mi ha detto solo in campagna ha buttato da qualche parte, dice quando ci sono dice che non porto, tanto a me non mi serve. Ma sarà autogato un fumasso. Ma se senti qualcosa, naturalmente è un prezzo ragionevole. Ma niente, se me lo porta non lo so, magari che condizioni è, perché sicuramente se l'ha abbandonato in campagna, se fa qualche scaffale, sarà pieno di coso. Vabbè, ma ci sono parti usurabili, a parte la polvere, dico, per i connettori e per quelle cose lì, per i commutatori, dico, ci sono parti usurabili, i condensatori che si possono rovinare. Ma i condensatori si rovinano, sì, i condensatori sono i primi che passano. Vabbè, allora, quindi non conviene mai prendere questi apparati se rimangono fermi. Ma non conviene mai no, però se uno lo dà, per niente, io gli ho una disastra e poi me lo faccio pure. Vabbè, senti, guarda, un po' se senti qualcosa. Ciao. Quelli a sintonia continua invece, quanto si riesce a trovarli? Oh, sintonia continua non ce ne sono. Ma che c'è sintonia continua? Ma non fanno HF però, che fanno dai 25 ai 30. Ah, parecchi del materiale? Di quelli sto parlando. Ma quelli lì sì, almeno un po' che per trovare sono 50, sono parecchi in 30. Oggi con oggi un 140, ma non sono 150 euro, non ho trovato nessuno. Cappa, cappa, sono arrivati e tirano fuori quelli? Vabbè, insomma i 100, 110. Mentre il Galaxy 15 watt, quanti ne ha? 15, e 21 è 60. Cappa. Riprendi Gianni, dai. Cappa, cappa. E comunque ce ne sono, se tu vai a guardare nel video. No, vabbè, devi bisogna chiedere consulenza a Claudio su quelli aperti, io proprio zero assoluto. Oh, Gianni! Oh! Vabbè, quell'apparecchio ha visto di prezzo. Guarda, è quello che sto tentando io. No, no, è sempre lo stesso. No. Non è male comunque il prezzo. No, non è male. Se rimane così lo prendo, se aumenta lo lascio, sono una fottuta. Non devo spendere più di quel tanto lì però. Perché per prendere un apparecchio di quel tanto lì mi piace quell'inter che c'è con gli strumenti, stazione base, bellissimo, tutto modificato, 400 canali, omologato oltretutto. Quanto già? Sale un 161 fino adesso. Caspita, a quel punto ti prende il Galaxy, non è così? Lo so, ma questo qui è un moderno, il Galaxy ha i suoi anni di vita e può lasciarsi qualcosa da un momento all'altro. Vabbè, poi non è omologato il Galaxy, quello lì è omologato. Questo qui è omologato, quello è tipo camuffato, perché qua è solito uno spinotto dove ci sono le cuffie e ti dà, mi pare, c'è un linearetto all'interno, esce con 15 watt. Poi, togliendo questo spinotto qua, rientrando, premendo due tasti, ti dà 400 canali. conosci fisicamente, se l'hai visto davvero, l'apparato. No, no, è la prima volta che lo vedo, come sono apparati nuovi. Sono apparati di ultima era, sono stato difficile di quelle nuove. Guarda, io ho questo portatile della Intex, i bocciuti secondo me non ha niente da invidiarli a quello della cosa, forse a livello di trasmissione è pure meglio del Midland, pur essendo quello un apparecchio con più fuori il sofisticato. Sì, quanti canali è questo qua? Sono 40 canali, facilissimo a cambiare canali, tutto digitale, lì devi commutare, c'è cioè, il commutatore, raga, a me sinceramente quel sistema lì non mi piace, e poi questo li sguarda li sente di meno secondo me, questo Midland. Ma il Midland è questo che stai usando o l'Intel? Scusa, questo Intel che volevo dire rispetto al Midland? È che a Claudio quando vanno fuori gli bastano 6-7 canali e me ne entra subito dentro. Qua invece niente, quasi niente lo sento, lo sguardo. Se ti faccio sentire uno vecchio io di portatile avvicinante. Le batterie durano tantissimo pure, cioè c'è un'autonomia eccezionale questa. Questa cosa non c'ha strumenti, non ha niente. Quello che portate lei, Roberto? Mio? Intec 50S. 50S? Sì, sì, non ho niente in particolare, però ti posso dire a livello di selettività del segnale secondo me è superiore al Midland. Io invece ho 50L, non so cosa cambia uno all'altro, no? Ma non si può rimediare anche un portatile, è un portatile. Tutto quello che poi si può rimediare, solo di rimediare. Troppo, io, troppo. Ce l'ho uno, è lui. Tanto, para, spero, Luca. Quindi si è apparato 40 canali, perfette condizioni, bello esteticamente, massoso, importante, provenienza America. Ah, non ho capito niente. No, ho capito un tubo. Quindi si è apparato 40 canali, marca Craco, 5003. Provenienza Stati Uniti, perfetto ordine stato, funzionante, ottimamente, con cavo di alimentazione e tutto, qualsiasi prova a domicilio, pagamento cash anticipato, €50, arrivederci. Ma non so neanche che baracchino è, bruh. Cosa di più qua? Ma inteso, ma cos'è? Veicolare, cos'è? Un americano, sì, veicolare. Veicolare, bello massoso, tifone di controllo del rosmetro, bello strumento analogico, delta tune, noise blanker, retro gain, squelch, sì, belle monocolone cromate, bello a vedersi e funzionante. Sarai tu Marco? E allora capirà tu, certo, se trasmisce me lo sto prendendo. Se vuoi la CB, gava gava. Si può vedere, non c'è problema. 50 euro, qualsiasi prova, va a uscita 2, 4, 5, quelli che stanno normalmente scappati qua. E anni che viene le fine? RF Gain, dispone di controllo volume, RF Gain, Squelch, Delta Tune, Noise Blanker, ML, Seguro più R, calibrator, manopola i canali, strumento bello rotondo per l'indicazione del segnale della ROS, c'ha tutto, di quello che ha non manca niente, con pappa pronto per poterlo agganciare al collo. Fammelo vedere che me lo prendo io. Va bene. Ecco. Ehi. E c'è di stazioni simili al coso, al Galaxy, c'è qualcosa tu? Sì, ne ho quattro. Dico, su che ordine effetto siamo? Ah, non so, non li vendo quelli. In base non ho... In base compro solo, non vendo. Questi ne avevo preso un po' così, tanto per vedere com'era la situazione dell'import-export e dell'acquisto agli Stati Uniti. Kappa. Quando vanno per vedere, Marco? Domani mattina. No, guarda, solo che come faccio che domani mattina le tracciate? Semplice, vai sul mio sito, mi mandi una mail con il tuo numero di telefonino e io ti chiamo, più semplice di così. Vabbè, faccio così, ma no, io non so il tuo sito. E te lo dico, www.int sul sito, c'è l'affare per mandarmi la mail, ma avanti, mi scrivo il mio telefono, io ti chiamo la mattina, devo uscire a fare commissione, la porto con me e te lo faccio vedere. Ma sì, no, perché mi piace, se è così come stai dicendo tu, sì, sono tanti, sono per la nuova professione, mi interessa uno così più strano, dai. Ah, questo è sicuramente regalato quel prezzo, a tu, è regalato, ma siccome ne ho diversi già di questi veicolari, non ne faccio niente, già ho questi base, basta così, basta e avanza. Quello c'ha MFM, sì. Ah, no, Giulia, mi sono MA. Dimensioni, dove ti dica, l'altro, 4 dita e l'altro, anzi aspetta, perché facciamo un discorso, ti dico pure le dimensioni, guarda. Bello, eh? È bello, quelli che mi chiamano un po' incromati, 18 centimetri per un'altezza di 6,5 centimetri, rotondo 21 centimetri, c'è quelle addirittura con la rivestimento tipo legno e il frontale tutto cromato con nanopoloni delle cromate, ah no, bella, è già un bell'oggetto solo a vederlo. Che stai dicendo tu che non vendi cosa sono questi? questi CB che non vendi, cioè fissi, stazione fissa? Guarda, questo che sto usando adesso è una Realistic TRC457RS, è una base, un apparato base molto bello, con praticamente le bande laterali, 40 più altre 40 canali circa, non 30, 38 canali mi pare che ha in più, con il TAR più 3 da tavolo. Mentre l'altro, come detto, è un Royce 642, sempre apparato base, è grande di dimensioni, come ecco, boh, se hai visto quelli che dicevamo prima, il come si chiama, Saturn Echo, di quella serie lì, più o meno di quelle dimensioni, comunque dimensioni importanti. Realistica ha due strumenti, il Royce addirittura ha tre strumenti. L'altro che ho è un base della Lafayette, il terzo 740, è addirittura tutto cronato, guarda, è spettacolare, quello neanche se mi danno 500 euro. Qua 120 canali, bande laterali, sempre due strumenti, bellissimi. Poi ho un iGain ottavo, che rimane invece che avere il classico frontale così a scatola rettangolare, invece rimane poggiato sul piano, cioè è diverso concettualmente, c'ha un frontalino rialzato, un po' tipo come si usava il Cobra, il Cobra GTX, come il GTX 2000, si infatti. Poi l'altro che ho è un Trinidad 23 canali, la base sempre, poi che cosa ho di base? Basta. Il testo te l'ho detto, qui sono. Il Trinidad è 23 canali, ma è solo AM, non è a base laterale, però è un base sempre di quelli con tutto il mobile in legno, molto particolare. Secondo che mi hai detto, diciamo, come caratteristica mi stavi dicendo, è carino, dovrebbe essere un bel apparato, con quello con tre strumenti, diciamo. Mi aspetto, lo faccio sentire. Ma non ho dato quel fazzolettino. Comprate, vendete. Compro, vendo. Compro, eccolo qua. Questo qui è il Royce, con l'MD più 5. Quello che vi sta dicendo con tre strumenti, cioè, poi c'è frequentimetro del canale. No, frequentimetro non ha, questo è come il Realistic, ha sempre la parte dedicata all'orologio digitale e al canale. Ha tre strumenti dove hai lo strumento a sinistra che ti dà la potenza del segnale, il centrale che invece c'è la calibrazione per le stazionarie, e il terzo strumento è quello che ti dà in contemporanea il ROS che puoi avere in antenna. Ma è molto bello, ma veramente bello, con guarda, tutto monocromo in cromati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci sono 8 manopole in linea cromate perché c'è la regolazione del tono, l'RF gain, il volume per il TI, il clarifier, la calibrazione, qui c'è tutta la gestione digitale dell'orologio con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 pomelli cromati, il manopolone, qui c'è altre 4 interruttori a pulsante grandi, bianchi, dove puoi inserire addirittura l'automatic gain control, che generalmente queste cose ci sono solo su apparati radioamatoriali, la NL, il noise blanker e il commutatore per andare da PA a CB. Una cosa, gli sdoganamenti come vengono calcolati, Marco? Questo è un punto oscuro, quando ti arriva te lo prendi, secondo me è discrezionale lì alla dogana in relazione a che cosa è contenuta nel pacco. Comunque considera una mazzata che è intorno al valore dell'IVA. Diciamo più o meno il 20%, non ci sono spese particolari oltre a queste? Allora, no, c'è qualche altra spesa aggiuntiva che adesso non mi ricordo, perché più o meno ho visto che incide intorno al 20% lo sdoganamento, e dopo ci sono altre due tasse, due due importi che ti fanno pagare, una specie di conguaglio di trasporto e poi un altro piccolo importo di un po' di euro, insomma comunque fra una cosa e l'altra fai un 20-25% mistici di spese in più, cioè se ad esempio hai 100-150 euro al cambio, mettici altre 30 euro tra una cosa e l'altra. Perché sui miei maturiti ne ho visto tantissimi di questi Galaxy e questi sono ragionevoli, per dire ce ne sono anche di 90 euro, 95 euro, e sono apparecchi fiammanti. Anche io ne ho visto, ma finali chiusi a così poco di prezzo non ne ho visto, eh. Ho visto sempre prezzi iniziali bassissimi, ma poi l'asta si è fatta sempre infuocata nel rush finale. Tappa. Cioè roba bella, ma tutto a poco non ne ho, io non ne ho visto, cioè sarà capitato sicuramente, però le cose belle le hanno sempre vendute, certo, cioè, in certi casi sempre in condizioni buone di acquisto, però regalate probabilmente è raro, ossia il buccio di fortuna che magari in quel momento non c'è gente interessata, però insomma tutto fa parte del gioco anche quello. Ma magari visto che sono apparecchi già adattati, magari vanno meno di un apparecchio recente. Ciao Marco. Ciao. Vanno meno, non c'è nel mondo c'è un casino di gente appassionata, così come magari mi sono appassionato io, ho comprato questi, ce ne sono. Se tu ricerchi in internet sai quante persone trovi che hanno 400, 300, 500 apparati della banca, poi li comprano, io li compro ma solo se funzionano perfettamente, se sono quelli, se no non mi interessa. C'è gente che invece li compra solo sui denti per fare collezionismo, poi non li accende neanche, li mette lì, li sovrappone. Ho visto dei siti dove ci sono delle stanze piene di apparati tutti uno sull'altro, capito? Dove non sai se funzionano o meno. No, io sono molto pignolo, io vedo che funziona. Già lo credo, già, e cosa ne fai di... Però io non ne faccio niente di cose che... sfasciati o tutti scassati che non vanno. E tra l'altro se c'è qualcosa ovviamente li voglio che funzionino perfettamente in tutte le loro cose. Io sono guardate, sono molto pignolo in queste cose, anche i graffiti mi hanno fastidio. Certo, chiaro, non puoi pretendere di trovare un apparato di 20 anni che non abbia i segni di usura del tempo, ma non mi presentare cose con le manopole mangiate dai topi o cose tutte graffiate, con frontali di disintegrare, così, no? Così come comunque quando copri queste cose capita che ci siano i capi tutti messi male, cioè un po' di lavoro bisogna, un po' di soldi bisogna metterle a correre, c'è poco da fare, altrimenti uno si compra un apparato nuovo e la lego che problema è. Perché ha ancora applicate tutte le adesivi americani con le indicazioni e non mi va, tu voglio fare, meglio lasciarlo lì perché non è, sono solo delle piccole cose, non è niente di grave, ma diverso se invece è tutto straffionato, tutto disintegrato, malapesa martellate o nei questi gruppi. È importante che sia decente, che sia bello con i suoi anni, ma che sia sempre in maniera decente. Pappagà. Mario, ci sei? Ci sono io, sì. Che rappresenta allora? Ma non ti stavo ascoltando. Stavate parlando dei baracchini, così che vi stavo ascoltando con attenzione. Marco, invece la storia continua. Beh, allora lì si parla di apparati radioamatoriali, allora le cifre in gioco cambiano. Generalmente si possono trovare anche cose vecchie, apparati di tanti anni, non so, il vecchio 430, apparati di Aegio, apparati Icom che hanno già 25 anni, e allora puoi trovare cose da 200, 250, 300 euro più o meno. Però sai, le cose troppo vecchie, poi comunque qualche problema possono darlo. Quando sono vecchie, poi soprattutto apparati così possono essere stati usati anche parecchio e perciò anche con necessità di interventi diversi. Comunque cos'ha, non solo a metterci le mani, se lo mandi in assistenza ti tenono vivo. Dai, un baracchino cambi due fesserie e lo rimetti in funzione. Lì quando cominciano a mettere le mani sopra la tira di amatoriali, i costi sono ben altri, ma si possono comprare cose. Sommato oramai ci sono anche apparati veicolari radioamatoriali che costano ragionevolmente poco, perciò sui 300-400 euro si possono acquistare. Allora è più facile trovare un apparato radioamatoriale che un CD in buone condizioni, sicuramente, perché il radioamatore è molto più geloso delle proprie cose rispetto a un CD, almeno dovrebbe essere così. Sì, dipende, perché l'apparato poi anche dipende da come è stato usato, se è una persona scrupolosa, se è uno che è capace di usare le cose, se non è capace, secondo che cosa ci fa, che se l'apparato è stato comprato 5 minuti lo può rovinare in maniera grave, con dei costi di riparazione bestiali, forse ha un'ora, capito, perciò ma non vuol dire, insomma, lì ecco perché insomma comunque bisogna sempre stare attenti come è stato usato, che tipo di garanzie danno, se ci sono soldi che hanno usato, oppure se invece è usato, funziona perfettamente, corretto di tutto, testato, provato, è garanzia assoluta, oppure con gli altri tipo. Usato, visto e comprato così come si presenta, e allora poi ti metti dentro a quel punto allora conviene comprare le cose da un negoziante che perlomeno ti dà la garanzia che se non funziona il sacrificio come sta a posto. Io ho visto stanno vendendo queste grosserie che vengono apparati ricondizionati, magari vecchi, però te li danno garantiti lo stesso. Ho visto su questi, come si chiama, grossi distributori. Sì, beh, ci sono sempre perché c'è un grande mercato di apparati usati, vuoi comprare apparati che hanno 20 anni, che hanno 30 anni e che funzionano perfettamente. Io ho venuto uno dei miei apparati radioamatoriali un po' di anni fa, lo avevo 20 anni, ma l'apparato era un gioiello, era perfetto in tutto e per tutto, capito? Chi l'ha comprato ha comprato un apparato che è usato e comprato da me nuovo, in perfette condizioni. Qui la signora mi chiama per la cena, perciò vi devo salutare, magari ci sentiamo dopo cena. Ciao a tutti. Ciao Marco, buon carico. Ciao Marco, sono le prossime. Ciao dopo, ciao. Gianni, da Piorro, perso ti sei dormito. E c'è gente chiacchierona, lasciamoli chiacchierare tutti, lasciamoli chiacchierare, io sono all'ascolto. Chi è stanco non ne ha più voglia di parlare. Lasciamo chiacchierare i chiacchieroni. Io e Roberto ne ha molta voglia di conoscere, di sapere, ha sempre di sapere questo ragazzo. Facciamo le informazioni, avanti Roberto. Vabbè, a me piace tanto ascoltare, parlare, sapere cose nuove, quando sono notizie tecniche mi si numerano le orecchie, come si dice. Magari se tu mi parli di altre cose non me ne occupi nulla, però le notizie, le informazioni tecniche, soprattutto quando sono dette da persone competenti, fanno sempre piacere. Vabbè, certo che fanno piacere, sto scherzando. E poi giusto che sia così, perché se ti devi fare una cultura su questo tipo di frequenza è meglio che sta. Marco sicuramente è una persona competente, almeno per quel poco che l'ho potuto conoscere. Sì, Marco è forse è uno dei più competenti che c'è a Sassari, si documenta, studia, eccetera, eccetera. Stai guardando la televisione, già? No, ragazzi. C'è la presentazione delle Olimpiadi, adesso stanno facendo tanti spettacoli, c'è la Formula 1, stanno facendo un altro gioco della Ferrari, un montaggio di del box, una cosa bellina. No, oh. Io dice che se non globa vogliono fare casino, vogliono fare casino perché non globa. Mi hanno già detto che prenderanno delle precauzioni molto severe se si mettono in mezzo. Ah, li avrei messi tutti in fila, sacco, con quelli grandi caricati all'estame, non ad acqua, all'estame l'ha colto gli avanti della vaccinazione, cosa del genere, se li fanno schifo. Cos'è per casino fanno? Non fanno altro che fare casino, blu. Gente ignorante, io li ho visti in Piazza d'Italia quando c'è stata una manifestazione a Genova, si sono riuniti, oggi mi hanno mandato con qualcuno, perché è una vergogna, dice, ma cosa chiede hanno? Quelli fanno solo per fare caos, creare problemi. Vattene per i conti tu e non rompere la scatola a nessuno. Siamo con gli autonomi di una volta. Ma io la politica a quei livelli non esiste, secondo me. No. Che sia di destra, che sia di sinistra, uno esprime le proprie opinioni, ma senza fare casino. Ma lascia stare, quelli sono fatti per creare problemi come quelli che vanno nello stadio con le bandiere dei nazisti, dei fascisti, eccetera, eccetera. È solo gente per creare problemi. Fanatici sono, basta. Fanatici, anche sono delinquenti, frutto di quelli che vogliono creare casino. La gente è scontenta della vita, non ha nessun interesse, ce l'hanno contro il mondo. La gente è un tipo di persone che non, secondo me vorrebbero presi e rinchiusi in qualche posto e invece a marcire tutti insieme. Sì, è un stato di ribellione, di ribellione contro tutti. Non le piacciono le cose pacifiche, non le piacciono perché le Olimpiadi sono dei giochi pacifici, no, sono giochi di pace, non è che siano giochi violini. Stiamo scherzando, io ne avevo una a scuola di compagno di questi anarchici, ma la gente non capiva niente, no, l'imbecille lui ce l'aveva contro di tutti. Eppure era di buona famiglia, il padre, gente benestante, ce l'aveva contro tutti, una mentalità contorta, ce l'aveva. Ma forse è insoddisfazione della vita, non lo so, non hanno quello che vorrebbero, capito? Tante volte è un modo di espellere la propria rabbia. È gente che non ha mai fatto niente nella vita, non ha mai lavorato, non ha fatto sacrificio, non ha mai fatto niente. Vai a zappare la terra, ti rendi conto cosa vuol dire. Io lo credo, per carità. Io a volte mi viene a fermare da quando andate a lavorare perché sono già tutto quello che mi spetta. E già lo so, tu sei dipendente, no? Per cui è ancora abito. Ah sì, e vabbè. Tanto di loggia. Diciamo che sono in famiglia, dipendente in famiglia però. Vabbè, diciamo, però è sempre, non è come noi che siamo artigiani, è diverso, se tu che decidi certe decisioni le puoi prendere autonomamente. Beh, certo. Ma l'officina di tuo padre oppure tua? No, diciamo, ufficialmente, cioè, mio padre è capobanda, noi siamo i titolari sulla carta, perché lui è in pensione. Ah, ecco, capito. E vabbè, ma sarà una cosa che ti rimarrà a te, sicuramente. Quando tu fai, tu fa proprio molla. E dice, no, va, arrangiati. No. Lavora da quando aveva 6 anni, ininterrottamente c'ha 73 anni deve fare, e ha sempre lavorato ininterrottamente, non si è mai bloccato, in pensione, da 92 lavora più di prima. Sai mio padre, a che anni ha smesso di lavorare? 82 anni, 86, non 82. Sicuramente mio padre se si ferma è per motivi di salute, no per motivi di mandromia, perché lui se non è ad affare se lo cerca. E così era mio padre, se era in figli, anche quando era in figli non voleva andare rientrato, di marcia. Cosa faceva tuo padre? Mio padre aveva una cattoleria e porta utili. Caffa. Così è mio padre, lui le figlie se le si potesse eliminare non le pare vero. Comunque era artigiano anche mio padre. Sicuramente mai non l'ha conosciuta mio padre. E Polacchi, forse a Usse rimane, sicuramente ci due era nel centro storico mio padre. Mario, tu che batti questa centro storico, lo conosci mio padre? Polacchi pure di sì, perché io i tabattani rimasto uno solo, poi c'è un calzolaio, che è Giovanni, lo zoppo, che già lo conoscerai perché è conosciuto da te. E niente, poi calzolai non li ho visto più. Sì, ce n'è qualcheduno che si presta a essere calzolaio, tipo quello che c'è tutto al mercato, e però poi è giusto per mettere un sacchettino con due chiodini che non va a tenere tutti. Niente, però calzolai non ce ne sono più, prima Sassari era pieno, in ogni angolo ce n'era uno. No, mio padre faceva scarpe di campagna, con gli scarponi di campagna, faceva fare scarpe ortopediche per la gente zoppa, cinture, borse, tutto faceva da piccolo. Sì, ma dico, prima ce n'era uno in ogni angolo, adesso non ce n'è più. L'ultimo che ho conosciuto che c'era, quando io abitavo ancora a San Donato, era quello che c'era all'angolo tra via San Donato e via La Marmora. Poi ce n'era un altro più su, che ci aveva un bel macchinari per lucidare, per fare. Adesso ci sono Giovanni lo zoppo che fa scarpe ortopediche, scarpe per campagna, là, quelle a fondo carro armato. Niente, no, prima ce n'erano parecchi. Adesso è un po' di tempo che non ne vedo più via Sassari, c'è proprio quella facoltà e quella sparita. Tu pensa che mio padre faceva addirittura lo spago per gli scarponi in campagna con la pece per evitare di marcirsi, no? E metteva la pece sopra. E i fondi delle scarpe erano puliti, a così si aveva chiuso. Ma guarda che io le so fare le scarpe di campagna, non è che non le sappia fare, no, avendo il materiale le farei anch'io, non è quello lì il discorso è che sto dicendo che come situazione, come mestiere, è sparito quasi, non ce n'è più. Prima ti ripeto, ce n'era uno in ogni angolo, andavi all'angolo di Rosello ce n'era uno, scendevi a metà vicino quasi al panificio ce n'era un altro, scendevi giù all'altezza di San Donato e ce n'era un altro sulla destra, dopo il barbiere, e poi andavi in Coso e via San Sisto ce n'era un altro, andavi in Santa Polinare ce n'erano altri due, andavi in Corso Vico ce n'erano altri due perché c'era Giovanni e un altro, ora c'è rimasto solo Giovanni che io conosco in centro storico, poi ce ne sarà qualcheduno così, ma sarà sicuramente per mettere i fili nelle scarpe, perché ogni tanto si usano a mettere il salvattacco e il salvapunta, però poi proprio come calzolai non ce n'è. A parte non per vantare, ma con mio padre a parte il pubblico di Mira. Mio padre ha fatto 12 anni di capo operaio al calzatore ufficiale Varese, ha imparato lì a fare tutto, prima come operaio e poi c'è la vita di storia perché sia il nonno che il padre erano più due calzolari. Ehi capo, ma quello che io ho detto non è che sto dicendo che il calzolaio, sto dicendo che non ce n'è più. Cioè sono scomparsi, è come quando noi eravamo piccolini che c'era un caimuraccio, oggi già facciamo un caimuraccio, non ve ne più. Ma mio padre già alla fine si lamentava, per gli ultimi anni si lamentava che stava sparendo il lavoro perché stava facendo tutte le scarpe con le forme in gomma e quindi ti durava in eterno, quindi nessuno più cambiava le suole, nessuno più cambiava i tacchi, dice la tecnologia stava arrivando anche la sua mestiere. Purtroppo è così Gianni, perché è vero, cioè tu oggi vedi un paio di scarpe, vedi un paio di scarpe da Tennessee, e cosa costa? 60-70 euro, io sto andando nella media e che poi se vai in altri punti le trovi anche per meno, ma io sto parlando di scarpe Lotto, scarpe Adidas, roba così, no, scarpe da Tennessee. Poi se vai a guardare le altre scarpe, Se ne sono un paio che sono, sembrano fatte di cartone, così che tu te ne metti 11. Magari hai risparmiato 20 euro rispetto a prima, che poi non li hai risparmiati. Però le scarpe sono di cartone, te ne buono un mese, due mesi, e subito le sciuglieli. Vabbè, lo prenderai anche avere gli altri bussi, ragazzo, che 70 euro. Vabbè, io sono andato nella media, già. Cazzo, tu adesso stai dicendo, cazzo, che uno come me cammina con una macchina e di qua pulisce con un Ferrari. Lasciamo più di capitoli. Cioè, parliamo della nostra vita che vediamo le cose mediocri. Non tanto scarse, ma neanche tanto di marca, perché poi della marca proprio a noi non ce ne frega niente, ci interessa che il piede sia comodo e che la scarpa sia buona, che ci duri almeno un anno. Sì, ma come hai fatto tutto questo? Perché se tu prendi una scarpa scadente, ti va delle mani, i piedi ti sudano, ti fanno, invece prendi una Nike, o come si posso dire, una Puma, che adesso lo scarpe che facciano dopo, le Puma, leggere, non senti, quando cammini non ti si stanca il piede, eccetera, eccetera, proprio di quelle Puma da riposo, non le conosci. Sì, la conosco, però non sono fanatico delle scarpe da Cosio, perché sono tutte cose sintetiche. Le scarpe da tenere con le belle in pelle che facevano una volta morbide in canguro non esistono più, non è rarissimamente. Tu non so se le hai conosciute le Atenis, le San Smith, che erano le scarpe che le stanno rifacendo adesso. Solo quelle trovi, le scarpe come le altre, adesso sono quelle sole alte, a me non piace. Io ho avuto le San Smith, ho avuto le Canti, ne ho avuto parecchie dell'aria. Io ho riscatto da calcio, per dire, adesso invece avevo una squadra di calcio, cioè dopo questa squadra. I ragazzi guardano soltanto il modello, i colori, tutti i gol. Poi gli faccio vedere una scarpa proprio da calcio, di calzolaio fatta in canguro, con la suola in gomma, bellissima, morbidissima. Ah, mamma mia, si mettono a ridere. È un paio io che le ho dato a un ragazzo, le ho fatte vedere in canguro, non so se la conosci, una ditta Orso d'Ambrusso si chiama, che costruisce per esempio un'artigiana, una ditta artigiana, in canguro, morbidissima. Appena la vita si sono potuti a ridere, ragazzi. Mio padre le faceva, quelle con i tacchetti in legno. Sì, ma adesso loro si comprano le scarpe Adidas, che sono le sintetiche, a meno che non ti compri le Coppa Mondiale, che magari sono in canguro, però sono scarpe che le fanno pagare 100 euro e sono in sintetico, le suole sono stampate, magari arrivate in tipografia, ne manco in conto, fai due partite e ti si consuma di tutti. Non valgono niente, solo sono tutte colorate, gialle, rosse, loro si guardano i colori. Però quando la calzi non è la stessa cosa di non si mettere a indossare una calza, una scarpa in canguro. Vabbè, ma loro sono presi da queste cose, d'altronde anche io lo facevo con la ragazza. Penso io perlomeno, tu sei giovane ancora. Ma i ragazzi guardano queste cose, le attivano i colori, le attivano i modelli. Tu anche a me, sinceramente, anche adesso sono molto, a me piacciono i mobili, perché si accomoda il piede, tutte queste cose le guardo, di solito le Puma mi soddisfano. Guarda, io le scarpe da tenere ho i piedi molto particolari, ne provo tantissimi modelli, però devono essere morbide, morbide, piegarsi, flessibili, non ne guardo di estetica, non è se il fegato che è il peccato, però devono essere morbide e comode, a me le cose non me ne frega niente, più che altro controllo che mi stiano bene e che cammino bene. Tutto bello per me, prova le Puma, sono le migliori in assoluto che ci sono, le più comode che ci sono, io quello che ho provato Adidas, ho provato le Nike, ho provato le Reebok, ne ho provato tanti tipi, però le Puma mi hanno soddisfatto di più. Allora, ne ho comprato una, e tra l'altro c'erano due amici miei, uno con questo amico mio e il calzolaio, tra parentesi, se ne presente c'ha una calzoleria abbastanza avviata, e se ne ha comprato due paia, mi ha detto sono le scarpe le mie, del piede mio, e le ho fatte vedere, ce le ho uguali identiche, lui se ne ha comprato due paia, sono eccezionali, è una marca che ho preso alla piazzetta, un negozio della piazzetta, le ho pagate anche poco, però sono micidiali. Allora un Reebok, cioè, ma dopo un paio di giorni camminandoci con quelle scarpe ti facciano già male i piedi. No, le Reebok a me non piacciono. Sono migliori le Nike se prendo il Reebok. Sì, in effetti è così. Devi trovare il modello buono, che sia bello, che gli effetti che anche che sta bene a piedi. Avanti, mi pare che c'è anche Luca, Luca. 10 euro, 2002. Avanti, vai. A me secondo me i ragazzi di oggi non capiscono una fanculo, stanno andando a scuola e poi credono di essere un bel saputi e poi non capiscono la fanculo grande quanto una cumba. Loro pur che si tratta, perché molte volte non è che guardano il modello, non guardano la comodità, non guardano niente. Quando vedono la scarpa dice, ah mira scarpa Nike, mira scarpa Robo, mira scarpa, come si chiamava quell'altro, la Lotus, cioè, poi non è che cercano di misurarsi la scarpa, se il piede gli è comodo, se il piede si può far male, se c'ha degli sfregamenti. Non ne vedi molti, comprano le scarpe, e questo qui te lo dico perché ne ho visto tanti, siccome non pagano loro, pagano i genitori con sacrifici, no, vanno lì a negozio, si comprano la scarpa, è bella questa, quanto costa? 120 euro, poi vanno a scuola magari, dicono, io gli ho pagato 120 euro, ma adesso li ho tornati a cambiare. E hanno vergogna pure di dire che magari la scarpa gli ha fatto la bolla, hai capito? Cioè le pigliano le scarpe, le usano senza prima misurarsi, senza niente, le usano, poi si accorgono che gli fa la bolla, oppure gli arrossa il dittino, oppure che... Allora subito se le tolgono e le buttano via. Se tu stai a fare 220 euro di monti, così fa gusto a chi non paga niente. Pagano i genitori. Secondo me i ragazzi di oggi sono tutti quanti convinti che sia tutto dovuto e che sia tutto buff. Non ci ragionano sopra. Una volta invece si entrava anche le calze. Mia madre, io mi ricordo da piccolino dove mi portava a Lucchia, alla Standard, dove era. Pigliava il calzino quanto era lungo. La mano, mi pigliava il calzino e mi diceva misuratelo ed era giusto, ma era vero, era giusto. Allora, invece adesso le calze sono una roba sintetica, le scarpe sono quasi tutte sintetico, cioè non trovi più roba come si deve, ecco. Sì, secondo me sono condizionati anche dalla moda, dal fatto di compagni di scuola che dicono il miglior modello è quello, Nike Air per dire. Allora tutti a comprare Nike Air, capito? Kappa, no, secondo me è così. Cioè si credono di essere saputelli, poi non sanno niente e magari sono gelosi del compagno che lì domani si è cambiato le scarpe, che ce n'è un altro paio, tu non ce li hai, ed è tutto un rincorrersi a vicenda, che però poi non porta niente, perché non è che dicono, ma a me il piede mi sta male, ma il piede così. E io mi ricordo prima da ragazzini, mia madre mi diceva, scarpati bene i piedi, noi che dobbiamo andare in negozio, e non voglio che magari... come se hai messo la scarpa che si senta odore cattivo o che c'ha delle calze sporche che fai brutta figura. Mia madre tutto guardava, è un paese di via, si scende dalla scatola quando entrava in negozio, così mia madre mi portava in braccio per non farmi sudare i piedi, per carità, e ti mettevi le scarpe, ti facevi la passeggiata, provavi a saltare, provare a inchinarsi con le punte di piedi per vedere se dove c'era la piega si faceva male alle dita e tante cose. Invece lui è bello quelle scarpe, dammi il numero, boh, e voglio e se si rimbucciava, e pagava e se si rimbucciava. Poi magari andavano a casa e trovavano mille difetti sulla scarpa. Poi la punta mi toccava la mamma, la punta delle scarpe sempre. Per vedere se le lasciavo un pezzo, se no chi si diceva no, io non me ne più, che se no poi sta male accorgimenti, ma queste ragazze di oggi, boh, sembra che siamo tutti quanti così. Cioè, si vede che il mondo sta camminando al rovescio, Prima una donna per spogliarsi, che altro la dovevi pregare, la dovevi fare. Oggi tu le vedi, mandano anche le fotografie in internet, tutte così aperte, tutti grattandosela, boh. Cioè, non c'hanno più nessun coso, non c'è più niente, oggi non c'è più niente. Vale. Che distanze quante se ne aveva da piccoli, ne aveva una per l'estate, una per l'inverno, una scarpa elegante e si vede una avanti lì, una da intonare con i jeans, una per i pantaloni del vasto tipo, una per andare in palestra, una per andare a ballare, 10 tipi di scarpe. Sì, è così. Io qui guardo anche la scarpa la domenica. Ma uscivo di tenere il bene, poi li usavi solo per la domenica o per le cerimonie, poi c'avevi una scarpa andante e buh, non ve ne erano altri. Molto da tennis. sì, è vero, ho il scarponcino. Prima più tempi, adesso erano davanti, è giusto che sia così, dai. Però la sua cosa c'è, che i bambini adesso pretendono, io non mi sono mai attraversato mia madre, mi dico, comprami questo, comprami quest'altro, la madre me lo chiedeva lì, figlioli, non vuoi questo qui, e io no, ma lascia stare, perché sapevo, se eravamo 5 figli, che avevo un po' di, diciamo, di buon senso, capito? Per dire, ero anche, dicevo, mi compra la mia sorella, no, comprala lì, che magari mi serve questo qui, capito? Perché la madre faceva quello, o me ne comprava uno, me ne comprava l'altro, avevamo 5 figli, quindi. Però quando uscivamo a parlare e andavamo là a questo passato di tipo che c'era, non so se l'hai conosciuto da San Francesco, dove è San Francesco? Gappa, che lo conosco. Andavamo lì, questo era anche amico di mio padre, e prendevamo le 5 paia di scarpe, eravamo in 5 e poi qualche volta le compravano loro, ma rarissimamente, e andavamo tutti insieme a comprare le scarpe. La famiglia bambina fa carta. Dicevamo, stava 8.50 a babbo, in 5 e 8.50 e loro due, cioè 5 figli più loro due che guidavano, in 7 dentro 8.50, l'ha conosciuto 8.50. E l'ho anche avuta, pure. Perché quando ho avuto un incidente, la mia si è distrutta, mia socia voleva avanzare, l'ha data a me, ma avevo 20.000 chilometri, con la era lucida. Babbo ne ha avuto due, una azzurra e una bella, e poi la Opel l'ha salvata, la Opel cade, sì. Però la B, non so se è stata la ricorda. Ai. Se mi stanno per quei tipi di macchine usavano i poliziotti. Loro, mamma, l'aveva presa, se ne ha fatto un po' più di chilometri con questa macchina. Era micidiale. Noi le prime uscite in macchina le abbiamo fatte con quelle da piccolino. A 13 anni la prima macchina che avevamo portato. Altri tempi erano. Tuo padre, quanti anni hai detto che ha? 73. C'è quanti anni ho fatto? Ma l'avevi detto, mi hai detto intorno ai 90, quanti ne ha? 9 e 4. Ah, sì, adesso non si può neanche più dire, a 30 anni zero ci rimane male. Sì, a 30 anni. E infatti, una volta questo vecchietto che era intervistato alla televisione perché aveva fatto per fare 100 anni, ha detto che quando ne aveva 99 si diceva, ne ha 30 anni, ma non ha 30 anni, no, ma lui non mi doveva già un po'. Il padre di mia zia così è arrivato, però questo era un omone, una montagna, 99 anni, spiegati di piani, a 30 anni perché non sapevano come se li portava bene gli anni. Io che non ci è arrivato, per 2 mesi non ci è arrivato a 3. E vabbè, adesso mio padre hanno fatto anche un'operazione, un po' di micattina operazione, diciamo, le hanno messo un pacemaker, doveva fare un'operazione all'occhio e gli ha fatto fare tutte le visite, le ho detto che il cuore non è che aveva qualcosa, però stava pompando meno perché era teatrofizzato, adesso come vizio, capito? Quindi aveva bisogno di un aiuto, le ho messo questo pacemaker, ma tu devi vedere come si è rimagnata questa ferita. In poco tempo lui aveva la ferita che non era manco rosa e già si è girata e tutto. Ma uno che è abituato a lavorare è così. Poi ci sono quelli che fanno vita sedentaria, che una volta che vanno in pensione ci siedono, in 5-6 anni se lo fanno a te e si innalza. Poi io perché mi divento che sono andato in pensione giovane, non ve l'hanno fatta. Ma io avevo un amico che faceva il bidello all'istituto tanti anni. Tanto in pensione, dove è stato Sirisi, ha cominciato questa gamba a non reggermi più, a farsi controllare tutto quanto. E così aveva un tumore in capo. Oh, a dire che si è avuto questa pensione, se dopo 6 mesi, se dopo 2-3 mesi se n'è andato. Bisogna vivere la vita, è inutile. Io dico sempre, andiamo, dice risparmiamo. E cosa risparmi? Che la vita è una sola. Diciamo qualcosa da fatto di sempre avere, però la vita è una sola, se non te la vuoi riconoscere, io facciamoci il viaggio, organizziamo un viaggio e via. Ma io sono un amico, che questo si è divertito, una persona grande, molto più grande di me, questo nella vita può dire che si è divertito, quando sarà nel paradiso dove andrà, dirà io mi sono divertito, questo si è tolto tutti i lussi, tutti i divertimenti, non si è mai tirato via, naturalmente è una persona senza fare il passo più gamba, grande della gamba, però mi ci dia, infatti lo invidio tanto per questo. E poi gli hai tutta esperienza, facendo viaggi conosci in vari paesi, i modi di farli, di vivere, eccetera, eccetera, tante cose. Chi è che ha detto qualcosa? Sono andato a te, non ho capito chi era, ma... Sì, sì. Bella, ma vedendo lo sai? Ma ragazzi, capito, questo è una cosa di questo spazio. sì, non è quello che ho preso, me l'ho preso pure alla Mega Lab. Vabbè, ma non è che non mi stai ascoltando, vabbè. Ma mica. Mario Maso, tutto il giorno per Roberto. Dai, gappa, gappa, è così, E già se ne trovano intorno a quella cifra lì già, 140, 680, che sono precisi, è vero, già si trovano, pazienza ci vuole. Infatti tu mi hai dato guardare che l'apparecchio non è stato mal messo, in qualche persona sì, è un radioamatore, magari. È proprio tu di una volta. Io, Claudio e pochi altri. che ci siamo trovati, abbiamo deciso di ci facciamo la mano per vedere la 27 sempre volta. E allora abbiamo deciso di sistemare tutto. Avete fatto bene, io faccio. Io non mi sto facendo qua, non ci sta proprio qua. Tu di cai 5, i suoi cannonisti, tornati fuori. E che non si decide a farla di non andare a fare questo? Ma ci vuole un po' di iniziativa da parte di tutti, se vogliamo portarla avanti e poi naturalmente se la cosa diventerà sempre più grande si rivederanno anche i canali. Ci vuole sempre buona volontà e diciamo via, perché stiamo sempre perdendo soldi in vista guadagnato. Allora beh, purtroppo i soldi dicono con la felicità, però fanno la maggior parte. Ci vuole anche quindi la diciamo. La salute è quella che ci vuole di più di tutto il resto, poi già avere anche il resto. No, e niente, tutto qui. Abbiamo io per dire ho 10 anni che non entravo più, accendevo sempre questo portatile perché me l'ho tenuto a casa, non sentivo mai nessuno. Oggi non faccio un break, così tanto per farlo mi ha risposto Claudio. E mi si era l'ascolto e cose, siamo messi a parlare, qui è entrato Tino. Insomma, e poi abbiamo ripristinato tutto. Ci siamo trovati, abbiamo deciso, fatto. Abbiamo chiamato quello per l'altro, siamo risposti a tutte le apparecchiature, qualcuno che vuole anche vedere che se la cambiate e via. Beh, che bella. Di luce io ho fatto migliaia di questi, perché sempre ho fatto un sacco. Allora, sempre la frequenza bella. Peccato, quello che c'è, quando ho detto di internet, i ragazzini che sono prima, che facevano le ruote con i loro compagni, così. Sono in due internet, tutti lo sanno anche, ci sono due radio e sanno due ecco, due case. E tanto internet ti dà la stessa cosa, perché io ho anche internet, parlo col microfono, mi vedo webcam, eccetera, eccetera, quindi fa la stessa cosa, anzi ancora meglio perché ti vedi anche con chi parla. Allora, ma la radio è sopra la radio, mi faccio la radio, faccio la radio. Quello sì, perché la passione come noi è così. Però io in quei 10 anni che ho messo, io ogni tanto accendevo sempre questo apparecchio che avevo capito, sempre per se c'era gente con la speranza di trovare qualcuno. Parla di cose così, non è un problema. Comunque credo di aver capito dove sei tu, sei molto vicino a me. Ma noi siamo vicini male, siamo vicinissimi, infatti vai di fuoco qua. Cappa, si ha un tiro di cucina da qua, Vabbè, io non dico nulla, mi sembra il semaforo, sì. Ma lui niente, io non vedo il nome di loro, non mi diceva. Io ho detto così approssimativamente perché siamo in questo angolino qui, Allora, siamo in questo piccolo angolo. Va bene. E quello che vuoi fare? No, già va bene. Questo qui è un angolo tranquillo, pacifista. Allora, rispondi. A te Gianni, a Mario, a Michele che anche se non mi ascolta e a tutti quelli da sopra. Ci sentiamo Mario domani, alla prossima a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte, 244, avanti vai. Ciao Robè, a domani e spero di sentirti bene, mi raccomando Tocco. Salutato anche la fattura. Saluta anche Mascherato. Ha passato, saluto di nuovo a tutti, speriamo che vada tutto bene domani. Di nuovo buonanotte, ciao a tutti. Va bene, vai tranquillo, va bene. Ciao, ciao. Vai. Ehi. Guarda la prossima per la domanda. No, negativo. Dove c'è Vittorio, va? Ah, ma va, non la farsi fare lo sviluppo vicino. No, negativo. Non ne ho niente, non me le tengo tutte. Va bene, ascolta a me, come si arriva qua? No, 9.5. Appunto la bomba, 9.5. Tu non si trova, ma sì, ma non è tornato. Via bambina. Allora, sono vicino. Allora, 9.5, va bene. Campo. Però, se incidisci, mettici qualche cosa di potente, così almeno quando entri in ruota con lui, senti a tutti. Aspetta, guarda se c'è un problema a lanciare il segnale, eh? Ok, guarda, guarda come il segnale adesso. È aumentato, però ti porto una piccola alternata lì. Allora, aspetta, è 1.3, è 1.3 e quindi anche, ecco. Adesso vedo la meglio. Ehi, ecco, adesso va meglio, sì. Va meglio, sì. Quindi sta messo 9? 9, 11, 12. Ah, capito. Sì, vabbè. Allora, buonasera, vabbè. Caparoci, avanti, Mario, Marco. Break. Ciao, fra, buonasera. Buonasera, già. Sottolineo Mario e a Michele. Michele. Franco Delta 1. Grazie, Franco Delta 1. Ma la sua me l'ha portata, sono portato da voi. E noi ci conosciamo anche, Michè. Ci conosciamo anche. Franco. Ora, prova. Ascolta una cosa, il tuo cognome qual è? Roger. Ah, ho capito chi sia. Allora, poi c'è un certo riserva, ci siamo salutati dopo un secolo. Sì, dopo un secolo, è vero. Allora, e tu lo sai dove sei? Ma sei proprio in zona o hai cambiato zona? No, mica, ho cambiato zona. Io ero vicino a te, comunque già te lo ricordi. No, adesso sono vicino a Uri, tra Usini e Sassari, scusa. Tra Usini e Sassari, a metà strada. Arriva, lavoro 5 persone, l'apparato sulla tua professionale, sta pieno da un'altra. Roger, sono contento di averti sentito, adesso da tanto non ti sentivo. Guarda, una di salami, non me la. Ok, ascolta, io non arrivo lì. Tu sei di 7, la radio, vabbè, sicuramente sto usando un microfono da tavolo. E l'audio è perfetto. Sicuramente non sto usando la tua, io sto usando la mia C70. Ho capito. E tu la stai usando? L'80. Allora, che sono un andate, avanti. Ogni tanto ho visto uno dice ma è quello lì che fine ha fatto, mi sbaglio, ogni tanto uno si appaccia. Mario, eravamo tutti e tre attaccati, io ero al centro, mi trovo da giù e tu di su. Gappa. Allora, la bella lunga lunga non so come si gioca a fare una bella ruota, come si fa con questa la ruota. Io sono mi capo ci fa, sono il monitor qua, questa frequenza mi sono più gente e quando sono in radio sono lo stesso, la sua una cosa. Ok, avanti Gianni. Beh, io mi sento piccolino, sono l'unico che c'è un baracchino, c'è un baracchino monografico. Perché dice le bugie, e io perché che cosa c'ho? No, ma dico, gli altri sono tutti quanti ben attrezzati. Ma io non ho un ragazzo, è un cane. sentire, anche se c'era un femmino con... Ah, vero che c'è un femmino. Sto dicendo. La tua ti vuoi. Perché questo schifo ti fa già? No, ma tu fra lo so, pesci bene. Ma lui mi sa che c'è una miccia mantenendo corto, pochi centimetri. Lo so, ma lì c'è già gli antenne serie. Il problema è che per questa frequenza non c'è. Vabbè, non c'è a metterla se non c'è, come hanno fatto gli altri. No, diciamo che c'è, ma è utilizzato su un'altra tarata, capito? E quindi qui se dove ci associamo non si tratta di metterla nella grande. No, io questo problema io ho dubbio, c'è neanche troppo per la distanza che siamo. Scusa già, anzi, sì, tu che devi chiedere scusa. Ho detto, per la distanza che c'è tra noi va anche troppo bene. Lo stai dicendo, anche se non è a prima piccolissima, massima in massima, e basta, e poi la farà. E dove c'è sul tetto? Ah, sul terrazzino, proprio sulla prima piano, nel frattempo la stessa. Mi pare che dopo la fine del buio non c'erano i problemi di tirati, di vici, di là, comunque non è stato fatto volontariamente, per carità, già lo sai che sono una persona corretta. Avanti, sto male. Ecco, ma non va bene. Non va bene perché c'è sempre quello che non lo sente, tipo Roberto poc'anzi non lo sentiva e rimaneva in disparte. E quando uno è in radio è meglio che lo sentano tutti, cioè uno fa di tutto per sentire tutto, e se si sente solamente il quartiere gli altri non si sentono in città. Quello sì è un problema, e vabbè già si sistema anche lui. Ma quello di polo adesso me sto facendo uno già di lusso, se ce la faccio finisco sabato, lo voglio provare. Devo rimanere lì e boom. Vabbè, anche la radio ti darà fastidio quando è acceso. Io vado a ogni certa e compagnia, capito? Però non è che perché cosa vuoi? Non è che puoi stare lì, si saluti, poi fai bianco e poi te ne vai giù a mangiare, poi riesci a lavorare, è brutto, capito? No, poi ti chiamano e non ti lasciano terminare. Roccia, sì, è così. Proprio adesso mi ho smesso, anzi acceso, anzi fa un po' lo sprovo pure, così non mi viene la voglia di fare altro. E quindi rimango alla radio. Pagà. Manda bene. Lo so, è così, quando non è stanco, c'è poco da fare. Ma ritmo, com'è la tua giornata? E come vuoi che sia andata? Lavorando, mi mettendo a posto il magazzino, oggi ci ho portato un po' di roba. Poi, siccome ogni volta che si va serve questo, quindi siete per terra, quindi non c'è da posto e allora mi sono dedicato a sistemare e me ne sono scese le braccia e le gambe perché abbiamo una specie di muletto, però è senza motore, capito? Già solo il motore per sollevare e per scendere, pure di decidere a mano. Diciamo che è un traspare che a metà funziona elettrico, l'altra metà è a braccia e a gambe. Che allora. E quando si trovi le pedane pesanti, già è pesante lui a muoverlo, anche se c'è le ruote. Figurati quando c'è il peso sopra e che devi manovrare, che devi fare per metterlo dentro gli scaffali, per carità. Meglio niente, perché che si molte volte si lascia la roba per terra, perché ci vuole tempo suo anche per rimetterla a posto, capito? Perché con la legge è pesante e si ammassa. Invece noi ce l'abbiamo, funziona tutto, però volevo usarlo solo per scaricare, basta, per caricare le macchine. Qui per muovere la roba in magazzino volevo usare i trasparti, adesso con le tasse dentro per stare nell'acqua mi dici da gatto. Ehi, KK, se è quello elettrico, come ne avete tanti polli, è meglio usarlo per tutto. Cioè, il terreno è certo che deve crepare le persone. No, anzi, il trasparente è leggero. Perché per fare del leggero, tu devi pensare che questo qui è un mezzo muletto, però lo devi spingere a mano, capito? Non è di quindi che schiacci il motore cammina, schiacci il motore solleva, no, non da va. Questo qui lo devi spingere tutto a mano, e quello lì fa solamente il lavoro elettrico che c'ha e sollevare. Io sì, bisogna iniziare a prenderci anche noi le casette in piedi. Facciamo la club di nuovo. Si può il pistone. Aspetta, vai. Ma con le schiavi così, ma non si può arrivare. Purtroppo il convento passa quello. Non c'è niente. Se avevo trovato meglio me ne sarei andato. Anche perché la paga non ci si quanto è, perché se no si scappa da ridere. Davvero, però purtroppo è mancanza d'altro, è meglio quella. Almeno le piccole spese si pagano. Io prendo su 1.800. Caralizio, quindi esattamente 1.800 hai detto. Quindi esattamente due volte il mio stipendio. Sì, 1.600, 1.700, se non 100.000. Comunque ci sono 27 anni io. Sì, non c'entra niente, 27 anni o 20 anni o 10 anni. Quello lì non c'entra nulla. È che con 1.000, parlo anche con 1.200 euro. C'è la testa abbastanza tranquilla, ma con la metà non c'è niente, ti paghi la luce, dai per un gas, boom, basta, è finito. Mamma, meglio non sentire nemmeno. No, comunque dove sono io ti pagano tutto, capito? Danno fine, tutto quanto. Se fai straordinario non li pagano, ma li recuperi, capito? Siamo una giornata di riposo, capito? Fai 7 ore, siamo una giornata di riposo. Niente, se mi faccio male peggio per me e così via, tutto lì. Allora, l'unica cosa che c'è è che devo spostarmi anche per pagarmi le bollette, le cose, non mi dice niente, capito? Mi dice vai tranquillamente, però per il resto non ho diritto manco a nulla, questo permette manco a respirare. Questo non ti danno, come un po' tutti, dai, che vanno, vogliono portare avanti l'azienda senza poter permettere di pagare nulla, perché io lì faccio tutto, io scarico la roba quando arriva, me la devo mettere a posto, me la devo scendere quando si vende per consegnarla, la devo trasportare, la devo fare, se c'è il magazzino in disordine me lo devo mettere a posto. Niente, però i soldi sono quelli e non hai diritto a nulla, però momentaneamente non c'è nulla di meglio, allora sono lenti e niente di avanti, anche perché si mangia tutti i giorni. Vabbè, non è solo che ti chiedere un aumento, di metterti in regola, ma se sto sempre piangendo, poi a questa gente qui si vede lui, allora c'è il fame, capito? Però se no che le fanno loro gli estorsini tutto va bene. Certo, non boh. Ma come lì? Ma non fatti male che non fatti niente io. Oh mai. Ehi, gappa gappa, ma poi c'era la moglie perché lui non c'era. E si stava lamentando. Siete due, sì, pum pam, sì, si ritappara. Ha detto, ma a me cosa che pensi che non pensi che è nulla, che io non sono nulla. Io non sono magazziniere, io sono solamente per scaricare, mettere a posto il buco, il magazziniere è il mio, vuole dire la cosa col figlio. E dice, ma così non va bene, cambiatela. Amico, io, anche io c'è venuto uno che fa due lavori, perché sta le cose dalle macchinette, di giù, di là, e poi più fa trasporta bugie. Grazie, se sentiva qualcosa per me, mi tiro subito al volo, perché lì non è fatto da fare. Ok, Andrea, quello che avevo. Non me lo ricordo se si chiama Andrea, vabbè, c'è un bigliettino da vista, forse ce l'ho nel posto appunto. Aspetta, là. Riprenderò Franco, poi io così lo leggo. Se Andrea è un amico mio, che c'è un Mercedes se faccio un vero. E avanti. Come ti chiami? Io voglio. Ma mi ricordo come ti chiami. Nel tavolo. Io la pigli buona. Oi. Già, secondo me sei fuso tu. Lui mi ha detto che fa per lavoro lui, allora io la mattina quando entro sto lo scarico, controllo le pesate, tutte queste cose qui, Mario, ascoltandomi. Dopo prendo il condone, carico la roba che serve nei negozi latte, tutta quella roba di là, porto in giro nei negozi, poi faccio le consegne, poi i negozi per dire che servono scontrini, serve questo, serve l'altro, lo dico la mia, io vado, riprendo il tonno. E poi alla fine della giornata per concludere ritiro tutti i loro voti alla fine della mattinata e poi faccio anche altre cose più importanti e, insomma la giornata poi la sera sento questo magazzino un sistema l'acqua di auvenita le bibite tutta quella roba lì. Sì, già io quel lavoro che fai tu lo farei ben volentieri, capito? Se uno ne ha la motivazione, ma se uno sta lavorando gratis, sì. Capito? Perché con lui secondo me è lavorare gratis, lo si fa solamente per non fare limosinare niente a nessuno, capito? Perché nella vita è bello essere indipendente, e chi ha orgoglio fa così, cioè sui genenti si lavano. Poi non è per dire quello che piuttosto va a chiedere, oppure come quella là, se chiusa in casa è morta di fame per non chiedere niente a nessuno, tutto lì è, capito? Comunque questo qui è in regione San Giovanni, adesso il nome non c'è, e c'è Automatic Drink. No, non è quello lì, non è quello che dico io, perché quello che dico io è dove c'è praticamente l'autorità Vittorio, c'è la presenza. Il gommista. Un'altra cosa. Comunque per dirti, no, purtroppo la vita è così, o se no che uno dice, beh, mi spacco la schiena, però a fine mese non mi manca nulla, c'ho i miei diritti, e cioè lui va in piedi e va in piedi anche tu, perché te le hai pagate, e allora la musica cambia. Invece quando tu vedi che ti fai il culo, e poi ti vedi quattro piccioli, è una cosa che non va bene. Cioè, già lavori di malavoglia. Ehi, ti sento uno zerbino, praticamente. Gappa, gappa, mi prende fra. Oh Mario, figlio, ora ci chiudo a capo. No, a me di fare quelle cose non me ne frega niente, però, siccome una volta già gliel'ho detto, gliel'ho fatto capire, no? Che non è che mi deve rompere un bel marroni, perché è così. E lui ha detto, sì, vabbè, però ogni volta ribatte su quel chiodo, deve fare questo, deve fare quello. Adesso il giorno che mi rompe le scatole, rimarrò senza lavoro, non me ne frega nulla, però lo manda a cagare. Perché è così, perché poi alla fine uno c'ha anche il suo orgoglio, vai. Gappa, cioè io lo sto facendo perché giustamente già c'è il bambino che vede, dice ma bim bum ma lui è ragazzo e molte cose non le sa, e cioè a dire cose che magari lui non capisce, non ne vale manco la pena, allora molte volte se tu gli dici ti tira avanti, però se gli hai detto che tu lo sa che tieni con piega. Sì, ma aspetta Mario, prima di fare una cosa del genere, aspetta che vado un'altra, magari che la chat lo devo mandare. Gappa gappa, ma io sto facendo così infatti. Io sto sempre cercando, come trovo un meglio me ne vado, perché a me stare lì, aspettare quell'altro non è che mi interessa, capito? Cioè io devo andare avanti con le forze mie, non con quelle degli altri. Anche se no hai perso. Niente, però come mi capita l'occasione le dico, beh, hai fatto il galletto per tanto tempo, adesso tu che dovrai culo. Per carità. Io non ti credo che anche da noi nell'inutile il mio sospiro. E sta facendo una cosa, ora quello fai l'altro, poi fai l'altro, poi arriva sempre una, devi sempre fare, capito? Perché non ce l'ho fatta a finire. Purtroppo, cioè, i corsi ci sono sempre, però te l'ho detto, cioè, fino a che uno riconosce, dice, beh, io pingo tanto al mese, scusi, siccome non me ne regala nessuno, perché in effetti non ti regala niente nessuno, cioè, al limite, presidente vai avanti, giustamente, rospolo i cui perché sei pagato, e non è che li puoi dire, ma perché non glielo puoi dire, però per dirti la cosa è contraccambiata e tanto vale, uno dice beh, chi se ne frega, tanto so come ti dice un opportunato, anche se tu inizi una cosa e viene e ti dice molla quello e fai l'altro, molla quello e fai l'altro, punto, basta, poi se quello lì non riesce a finire, gli dici no, momento, io lo stavo facendo, ma mandate in giro, ma mandate che andava con i lavori. Se ne riparla domani, come giustamente succede. Però non è che ti dicono, chi te li stappa, hai capito? Se lo dicono con le dopo che vuoi, molla quella e fai l'altro, tu molla quella e fai l'altro. Non succede nulla, perché anche io molte volte sto facendo le cose, e devi andare in banca, devi andare qui, devi andare lì, mi devi portare i serbatoi, ti devi uscire a Cagliari a pigliare questo materiale, stai attento perché c'hai un carico di 100 milioni, ma mai cosa mi dà fuso? Cioè, tu sei pensato di tanto per allungare, questo è come se andare in Saudiria, che se mi deve regalare con il naso perché a Saghese come c'è un cane e non so come ha assicurato. Cioè, non so se avendo l'idea. Lavorano sulla coscienza di un padre di famiglia, deve campare un bicchiere e tutto quanto, andando, non dico tanto, ma almeno lo stipendio giusto, assicurato, tutto quanto, cosa mi gusta, e via. Ma non vedo che non faccio tanto a cucina. Secondo me, già, non lo facciamo così. Lo so. Come la pensano, ti dicono che per assicurarsi ci vuole, devo ottenere lo stipendio, devo pagare contributi quanto lo stipendio. Perché quando io gli ho chiesto una persona per darmi una mano, mi ha detto che mi costava un sacco di soldi. Devo stanno guadagnando da sopra di noi. Non l'ho sempre fatto mai. Pensavo di dire da dove se la fa. Infatti lui già si è fatto la villa indipendente, lui c'ha la casa al mare, lui c'ha tante cose che gli altri non hanno. Lui se ne va in continente, porta i figli a Gardela, li porta qui, li porta lì, li porta là. Però tu, siccome sei operaio, ti devi stare zitto e possibilmente devi cagare e pisciare dove ti dice lui. Sì, sì, è così. Allora, a un certo punto, come fare un attore. E buonanotte. Ehi, gappa, ma non ce n'è problema. Posso anche andare a continuare a fare il muratore, che non è quello il mio problema. Il mio problema è essere, siccome lui che anche nei cantini i lavori sono tutti subappalti, sono tutti piccoli artigiani e tutti quanti ti vogliono però sono assicurati. Nessuno ti vuole assicurare. Insomma, sta minestra. Mario, scusa un attimo, mi riprendo io che devo spostare un attimino. Faccio un QRT e vi saluto a tutti e due. Ci sentiamo alle prossime perché devo spostare urgentemente. Ciao, fra. Buonanotte, buon tutto. Scusa se ti abbiamo rotto come le nostre chiacchiere. Oh no, Mario, non c'è problema per me, figurati. Per me è sempre una compagnia. Non c'è problema. Di uno o dell'altro, basta che ci parli. Gappa, ciao là, buon proseguo, buon tutto. Oggi. Riprendete. Oh Mario, ma non ti ridighi, va, che c'è stato sempre lo rifiuto, io all'inizio sono stato 6 mesi senza essere assicurato, prima 6 mesi di prova, senza essere assicurato, dopo mi davano 500.000 lire al mese all'inizio. Cappa, ma lo sappiamo come funziona, cioè io criticavo Molinizzo quando era uscito il giornale, che ricattava gli operai, che gli dava... Mi faceva fermare le buste paghe da 1.500 euro, 2.000 euro e poi gli dava in mano, quando glieli dava, gli dava 600 euro, quando glieli dava. E criticavo quello lì. Però mi sembra che sono tutti a un orecchio, perché io ho trovato molti piccoli artigiani e tutti quanti volevano questo, volevano quello. E con uno ci sono anche andato. di quelli lì. E mi sono sbattuto a Santa Teresa, nonché all'Isola Rossa. Vabbè, io qui là ci sono andato perché giustamente se ti dico che devi andare lì, vai lì a lavorare. Cosa è successo? Che sono mancati i blocchetti, siccome l'Isola Rossa quando la stavano costruendo era tutto fango, perché come pioveva, tutto il fango che scendeva dalla montagna arrivava lì. Come passava il Manitou, il Manitou c'ha le ruote enormi, e faceva i surfi in mezzo a questo fango. E un giorno io ero lì lavorando con un ragazzino, con un manovale che mi doveva portare sia i blocchetti che le passi. Vabbè, lavorando e sono rimasto. A un certo punto finiscono i blocchetti. Io gli ho detto al manovale di andare a portarli. Uscito che questo manovale doveva fare mezz'ora per andare là, pigliarne tre, metterli nella carriola e poi venire da me. E ha fatto un paio di viaggi, poverini, in mezzo al fango. A un certo punto ha visto che il muro non stava andando avanti, si è avvicinato il geometra e mi ha detto cosa. E si è messo un pochettino così, prima con la calma, poi quando ha visto che l'ho mandato a cagare, gli è scappato che lui per me pagava 36.000 lire a ora. Allora c'erano le lire. Mai me l'avesse detto. Allora l'ho pigliato ancora più a voce e gli ho detto, ma se tu vuoi che lavoro si ha fatto, i blocchetti mi diranno i ginocchi con un marito, ma il marito è impegnato un'altra parte, tu culo dai mi compare di un altro. Pigliato, mi sono cambiato e me ne sono andato. Ha pigliato e ha telefonato al mio principale. Io sono arrivato a casa. E come sono arrivato a festa gli ho detto, come sei che hai ragione? Tu a me mi dai 50.000 franchi era lì e invece tu ti ripigli in un'ora che si dirà. E io mi devo fare un burro per che questa ricoglione, ma non ti tardi. Ha detto, dammi della mia e vai a ammazzati. Ma lui non sa fare niente, lui per me si faceva pigliava 36.000 lire a ora, sia per me che per il manovale. Quello là si doveva rompere la schiena a portare il blocchetto perché il manettino doveva essere impegnato. E poi si pigliavano pure la parte grande. E ma un momento che arrivi da sé se ne ha subito lui. Si pigliava, dammi le mani, vai, ammazzati, non mi becca più a me. Vabbè. Sono che loro continuano a mettere male il ferro, sapete quello? E loro continuano perché trovano gli stupidi che magari non ne sanno, capito? Però quando trovano quello che ne sanno li mandano a cagare. O se no, come molti hanno fatto, li hanno denunciati. E da voi hanno pagato me e Mari. Sì, questa gente qua comunque vuole denunciare davvero, perché se no è così. Perché con la scusa che c'è poco lavoro, no? Stanno a gira, dice tanto questo qui ha bisogno, ti pensate, dice lo spremiamo come limone, secondo Luca Budetti, ma siccome noi abbiamo una testa siamo capaci anche a pensare delle cose. E così che non è che ci vogliono loro, io giustamente mi sto stringendo i denti per tirare avanti, però poi quando non ce la faccio più gli dico a voi, adesso io me ne vado, no? Tutto quello che me ne hai rubato prima, adesso me lo dai con gli interini. Cosa ti devi dire? Vabbè, è certo che sì. Tutti i prefigli, no? Io già lo stesso, questo porto di cose lì. Che dice ci sono capi del parto, capi commesse, capi qua, capi là, e tu devi ascoltare tutti i gatti, compreso uno dice una cosa, uno dice là, a volte si contrarieggia nel buco. Ehi capo, ma tutto il lavoro adesso, vabbè, da quando c'è stato questo coso qui che il posto piace più per nessuno, che porto un piccolo di eccola, hai capito? Adesso con quella scusa lì tutti quanti hanno paura, tutti quanti si stanno lì e così via, capito? C'è molta paura anche in giro, non ti credere che, perché io ne conosco tanti che sono marito e moglie anche in Calabria. E sono in due e lavorano marito e moglie e ne escono puliti, con due stipendi ne escono puliti, perché non tutti pigliano lo stipendio alto, io ne conosco anche che pigliano 1200 euro di stipendio e sono 2400 euro, però invece tutti 300 euro di luce quando si va bene. Se no 350 come mi è arrivata molte volte anche a me. Così che, se ne togli 300 euro di affitto, quando ti va bene, se no sono 400. Devi mangiare, se devi vestire, faccio dei voti, se devi comparare. Poi ti senti, molla l'assicurazione della macchina e sei pure andare pure a terra. Quello che paghi l'assicurazione, ma sei pure andare pure a terra. Non so, bravi, così. Purtroppo se non ci aumentano questi stipendi è un casino. E io ti immagino che devo pagare solo 300 euro di benzina al mese. No, ma io quello lì non l'ho calcolato, eh. Io quello lì non l'ho calcolato perché se tu ti fai un giro di culo, allora, ne prendi 1.800, no? Giusto per tagliare la testa al tono. Oh. Visto che c'hai una famiglia, c'hai un lavoro, uno dice io rischio, anziché pagare 500 euro o 350 euro di affitto, certo me lo fa fare, se c'è un mutuo se compro un appartamento, giustamente, e se così un domani sono in casa. Allora, mi togli i soldi del mutuo dalla casa. Se togli 300 euro, 200 euro, farlo anche, so. Io voglio andare più in economia possibile, 200 euro di affitto. Poi c'è il bollo e l'assicurazione della mano. In questo caso tu ne hai due e te ne devi pagare due bolli e due assicurazioni. Ti devi pagare la luce, ti devi pagare il gas. Devi pagare il mutuo della casa. A tuoi figli ogni tanto un regalino glielo vuoi fare. Un paio di pantaloni, una gonnellina, un vestitino, uno che è. Costa tutto con i soldi. E poi la roba dei bambini, molte volte costa più di quella dei grandi. Questo è che se vai un giro dei conti, che sughi ti mangi? La benzina della macchina, l'olio della macchina, gomme. Se si rompe qualche cosa che la devi aggiustare, fa un giro dei conti, fidati la calcolatrice, e a me da che tutto avanza. E nulla, io per fortuna la casa è mia, non sono già pagato già da roba di 6 anni che l'ho pagato, per cui da qui non lo compenserò, non ce l'ho. E vabbè, però tu sai che la casa è tua. Però quando c'è qualcosa devi pagare lo stesso, se c'è da rifare la facciata, devi pagare il condominio per la luce delle scale, per la pulizia delle scale, sei in casa tua ma non sei mai in casa tua. Per pagare il mutuo. Sì, se ti dico la quant'ora che non è stata a lavorare, tu non ti prego. perché cioè, stavo 8 anni a lavorare e prima lavoravo in panificio e allora si portava il pane sulle spalle dentro le teste. E io me lo ricordo. E allora, cosa è successo? Solamente che lì, quei tempi, era assicurato. Poi invece, è così, lo consiglio comunque. Siamo dovuti andare in Russia. Gamba gamba. Solo che in quei tempi con 5.000 lire facevi la spesa per tutta la settimana. Oggi con 5.000 lire queste compagnie di alcune sigarette. Ma io mi ricordo che prima si mette a fare anche come ti posso dire, quando lavoravo a mezzo mettevo un milione al mese da parte. Gamba gamba, ma prima era prima, poi vengono i bambini, poi c'è quello, poi c'è quell'altro, e quando stanno male devi andare al dottore e devono pagare un ticket, anche pure un mese settimane devi pagarmi. Meglio di no allora. Gamba, lo so. Ma per dirti, no, mi cercano tante cose. Ah, tu sei, sei tuo figlio malato? Devi pagare. Vai a chiedere un certificato medico? Devi pagare. Devi sempre pagare. Già, siamo nell'era che uno deve pagare anche per respirare, purtroppo. Allora, pagate lunga di là. Però se tu le dici che stai pigliando poco, che non riesci più a vivere, non ne ha fatti nulla. Sì, io Mario. Io credo che pigliano solo, siamo in 5 lui. Lo so, ma io non è che sto dicendo in 5 sì, quello e quell'altro. Io ti sto dicendo uno stipendio. Col tuo stipendio, pensi che fossi anche in 2. Quando tu dici quante le spese, perché uno bene o male spese ne ha. Così che tu mi dici quante le spese e poi mi dici quanto rimane? Niente, perché non rimane niente. Poi quando vengo residi allora dice stringere un pezzo là, stringere un pezzo dall'altra parte. Perché sempre con quei soldi devi tirare avanti. Dove mangiano due, mangiano tre, dove mangiano tre, mangiano quattro, dove mangiano quattro, mangiano cinque, e se sei tre, sei, arrostoni, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, contatti. Sai cosa mi è costato di libri a me quest'anno, mio figlio? Solo perché il fatto c'è stato il cambiamento della scuola, che da una scuola è andata all'altra. Ho dovuto spendere quasi 500 euro in libri, senza quelli che aveva già. No, perché quelli lì, qualcheduno l'ha recuperato, ma qualcheduno no. Cioè, più di uno no. E perché non è già diverso? Torna a comprare i libri. E tu lo stai dicendo a me, mica ne ho una di fida interfamiglia, non so cosa vuol dire. Appunto, te l'ho detto perché lo sai, se no non te ne avrei detto, ecco, se no magari ti l'ha scusato. Senza poi contare tutte le altre cose, le fette, le pennarelli, e quello, matite, colori, perché devono diventare, devono fare, e lì, quaderni, al fondato il giorno, non è poco del giorno, non sono mai contenti. Prima ci davano le cellule, con le cellule avevano farci libri in casamento. Certo, prima. Però se tu stai lavorando non ce l'hanno niente. No, no, prima anche le famiglie di medio ceto sociale gli davano le cellule per i libri. Gappa, ma anche a te, per esempio, tu adesso hai tre figli, ti dovrebbero dare gli assegni maggiorati, però non so se te li danno. No, no, io di figli ho due sempre. Vabbè, facciamo tre, perché mio padre c'ha 94 anni, è sempre come un bambino. Sì, vabbè, non c'entra niente, però diciamo così, dovrebbero essere tre gli assegni perché ce l'hai a carico. eppure le danno maggiorati? No, non credo, perché sei un po' segreto. No, non risulta carico mio mio padre risulta a casa, sì, ma non a carico mio. E lui c'ha una pensione, la roba sua se la compra la pensione, capito? Ah, ci ha pagato, no, pensavo che fosse stato messo nel portato di famiglia e che te lo avrebbero incluso come persona a carico. E va bene, sono infatti che si fa, non esagerare. No, non mi fa dire. No, nel mio stato di famiglia è incluso, però avendo la pensione non risulta il mio carico. Se non avessi avuto nessun introito, allora sì. Ah, solo se non dovesse avere pensione, allora non lo sapevo. Cioè, io sapevo che una volta che uno va in pensione e che c'è una certa età, sapevo che era a carico là. Non sapevo questo particolare qua. Comunque, vedi bene che usi, cioè, avere molti figli, da una parte si è agevolato perché si dà l'incentivo, si danno quello, si danno la maggiorazione degli accessi e un po' viene aiutato. Però, capito, sei sempre lì perché anche se sei aiutato, cosa ti danno? 321 e beh, si rimane in bocca, che serve di che da pallone, vedi, gli dato, in 4-4 si rifaccia, andate a fare le volte e vi muovete di là, anche così, come per tutte le cose. È così, purtroppo. Purtroppo siamo in mani loro. Ecco, pagata. Purtroppo è così, sì. E mio figlio ancora non si vede, boh, un chissà per te, ma chissà cosa gli altri combina direttamente anche su di là. E la saluta. L'interessante è che sia tranquillo, là, che non vada in posti rossi, ecco. L'interessante è quello, poi sei con la bicina a lì. No, ma Romagna è con la bicina ed è in casa Giulia. E i genitori lo sa. Certo che lo sanno, se c'è anche il padre e la madre, molte volte gli dicono pure di fermarsi a mangiare. E si mette in camera della piscina, se state nella televisione, si può in giro di DVD che si è acquistata da me e si sarà portata a chiesa a far vedere i DVD. Ah, e allora, senti, se sono sempre sicura, frega, se non mi sa che sia tranquillo, là. Perché lì l'ambiente non è molto bello, ma te lo dico chiaramente, io li ho visti tutti i colori, quando andavo con l'ambulanza, non ho visto tutti i colori, chi dove ha facciato rubiato in cambarubà, burato, chi sa farrare di tutto lo zammo in terra, macello, qua. Già lo so, no, questa figlia è una famiglia tranquilla, lui loro sono dentro casa, non è che sono in strada, come molti, buoni, attaccati all'aereo, poi stanno giù di lui, poi andiamo a prendere, però non è che va attaccato all'aereo. No, lui è in casa, tranquillo, tranquillo, parlano di cose di scuola, si guardano quasi. Ma pensate che ti lasci tranquillo, che ogni tanto ti dica ma lì sono stato tranquillo che sono a casa, ecco, e darti una sicurezza, capito? Io per quello sì, mi ha telefonato pure poco fa. E allora basta, ma non c'è problema, cosa vi volete? Quando uno non c'è un dito, non è più di nulla. È la natura purtroppo che ci porta. Sarebbe brutto se fosse a casa di qualche maschietto, no, ma non è quello lì, no. È che io comunque quando mi ha telefonato ho detto, ma non si pari ora. Sei vai su lungo i disanni, hai cantato il giusto, a te maggiorenne a fare un che ti piace. Quello c'è il freno. Cioè, è vero che è quello, che è un po' carino, ma è come si muove in moto. No, è nel palazzo di fronte, io già, non è lontano, no? Sì, allora, ma io... Ma sta bellissimo, sono due bassi, vedete? Comunque, ricordo che per una volta siamo andati in piazza del Tunnel, noi ci chiamano i carabinieri, allora non c'è il 118. Ci chiamano i carabinieri, io vado con la volanza, dicevo direttamente che deve essere successo qualcosa di brutto. Però aspettate che arriviamo noi, perché una volta siamo andati fatti e ci hanno tirato lo scaldabagno sulla macchina. Brave persone, no? Educate. Non è che hanno detto quella lì è una macchina per portare anche uno di noi in caso che stiamo male. No, lo scaldabagno è andato alla pulata. Hanno fatto... Cioè, se l'avevano dovuto mettere i carabinieri, ancora gli avrei capito. Ma allora è andata l'ambulanza, giù. No, intanto la volta i carabinieri ci hanno detto aspettate che arriviamo noi perché la scorsa volta ci hanno tirato lo scaldabagno. Ah, loro l'hanno già, io avevo capito che era entrata all'ambulanza. Beh, arrivo in chimio, una pozza di sangue, roba di 30 persone, nessuno sapeva cosa era successo. Sì, nessuno sapeva le cose che si stanno, solamente che uno non si vuole mai mettere a mezzo perché si sono felici. Ed era successo che questo l'ha tirato un sasso, la suocera in testa, l'ha crepato la testa, poi l'ha presa e l'ha portata su e si vedeva trafficiato nel sangue. L'abbiamo seguito con i carabinieri, l'hanno lanciato a Daisa, mezzo moribondo, in una terroretta. Gappa, no, ma succedono quelle cose, perché questo qui è un ambientato. Quando hanno accoltellato il figlio di cui, nell'agraria. Purtroppo è un giro così, chi non se ne può la vista, qui ci sono state carabinieri, che fortuna lì ci sono state carabinieri. Però che se è un giro di droga che non hai idea. Sì, ma andiamo anche loro a scendere, lo sai. La polizia quando viene due, tre pattuglie, non è che ne viene una perché basta e avanzano, quando vengono due, tre pattuglie. Ma se non avessero uno, per dire si mette il palazzo a difendere. No, quello lì che ancora non succede, non è come a Napoli, però hanno paura perché a volte ci sono chiusi, perché sono lì comprati la roba, vengono un po' in bulti, allora... perché i carabinieri gli hanno pregato anche le macchine quando c'erano la festa, venuti qua e gli hanno pregato la macchina sul tornaggio e quelli lì hanno fatto tutto il 50 d'ora perché le macchine c'erano le mitragliette, hanno abbandonato l'arma dentro la macchina, un casino. Infatti adesso quando vengono qui vengono salvati. Uno rimane nella macchina per controllare anche le altre macchine, gli altri vanno su, se devono salire su. È un cammino lì. Ma già ho sentito che hanno pensato anche la polizia. Che era per restare a uno e se non avessi tutto il palazzo contro la polizia, hanno preso la sassia, cose, E quando hanno fatto la sparatoria nella via dove sta frequentando il mio figlio? Che la polizia si è messa a sparare anche al centro delle finestre. Infatti, se riguardi ci sono ancora tutti dei proiettili. Vabbè, la ricostruzione di tutti di più. Non ti mi inutano. Ehi, non è che temono nulla. Quando si vedono una carta testa, sì. Perché sennò che possono scappare o fare, trovano la scappatoia di già. Non ho mai visto, non ho mai avuto. Questo c'è, lo devi dimostrare. Ma no, quando si vede anche a che pezzo si deve andare più pericolosi. Vabbè, allora sì. Mi sto la schiena anche quello. Ma loro stanno pagando, stanno anche le indennità di rischio. Lo so, ma rischiano. Non tanto qua come il continente. Il continente è piccolo. Il continente è piccolo. E oggi... Stiamo diventando a quell'era lì, cosa di sparare gente nella macchina così con la moto, si sentiva solamente a Napoli, in Calabria. Adesso oggi c'è il giornale, Alghero, a uno, pum pum, una pistola. Ma com'è non la ribuscio? Sì, quello ha pensato che era una marmita della moto, quella difettosa. E invece poi si è fermata e ha visto la macchina che era stata dentro lì. Ragazza. Anche qui si stanno svegliando, come prima, anche qua qui si verrà forse si pensiamo, è quello, l'altro. Era tutto a livello agli uglio. Invece qui si sente le rapine, i vicini. Il mio gambata chi tu, non è buono gambata la nonna per pure andare là. Cioè, ma quando sta andando a rubriccio? La gente non se ne accorge, però sta veramente andando a rubriccio. Sì, ma dipende anche tanto dal lavoro, perché quando uno non c'è lavoro si danno a fare queste cose qua. Anche, anche. Però purtroppo c'è quello che non ci riesce e che cosa fa? Si ammazza. Si ammazza pure, gli dà di testa e non ammazza qualcuno. Allora. Sì, ma uno quando... Guarda che non avere lavoro per un uomo è la cosa più brutta che ci sia, vero? Uno che c'ha testa. Però si sei rotto lo scatto, grazie a Dio, hai avuto fortuna, essere rientrato dove sei e usi, si tranquilla. E quelle che la fortuna tua non l'hanno trovata, che sono sempre sbandate da un lungo all'altro, 4 di nove, 6 di età, quindi 3 di una su lungo, 3 di una su lungo. Tu hai detto, figlio, un ragazzo come Luca. Ma che cosa ti puoi dire su questo? Lui vuole lavorare, ma se non accappa cosa deve fare, deve andare a furare, oppure deve andare a cambiare la casa. Sì, ma Luca ti ha citato a fare, è un ragazzo che prima o poi il pezzo che lo trovi la sua, perché la voglia di fare non rimanga. Sì, ma c'ha anche 34 anni già, la voglia di fare non gli manca, però c'è già 34 anni, gli anni avanzano per tutti, eh. Però non è vero. Come vuoi fare? Siamo tutti, mio cognato non si è sentato a lavorare a... Mi pare 35 anni, ma non è che ha trovato un buon lavoro perché fa l'analista all'ospedale. Però prima di trovare quel posto di lavoro non ha mai trovato un lavoretto di capo. Capo, ma purtroppo è così, cioè noi non dobbiamo molte volte pensare solamente, ma così, colà, sto bene io, sono bene tu. Però purtroppo c'è anche quello che poverino, si prova, però non si riesce. Io per esempio ho fatto questo lavoro qui, perché non ho trovato rimedio, trovavo rimedio e me ne sarei andato, ma perché? Per cercare di stare meglio. Ma è certo che sì, ma è possibile che tu non abbia una coscienza, pensare che tu hai un figlio e devi portare avanti la famiglia. Questo non hai capito nulla, hai sempre a che fare della tua famiglia. Dalla famiglia di quella, la famiglia di quella, non ha le forze nulla. Lui pensa che è da sé, cioè già non pagandosi i contributi sta guadagnando una barca di tutto, già da questo. Anche da lo stipendio che ci dovrebbe dare sta guadagnando una barca di tutto. Perché se tu vai a guardare cosa sta pagando per lo stipendio, è meno. Perché quanto deve guadagnare una persona, da quanto una persona? Qui ci vedono come numero, non come persona, capito? Esatto, no, ci vedono una persona quando sono con l'acqua alla gola anche loro. Allora ci vedono come persona, però prima ci vedono come uno schiavetto. Ma lui siamo al numero, capito? Mancano due persone, mancano tre persone, non è che manca quello, manca... Mancano tre unità, bisogna sostituire le tre unità. È il K, è il sistema che purtroppo è così. Ai ai ai, purtroppo, bisogna vivere la giornata e butta. K, no, io, anche io prima, ero un po' carico mancante, perché ero un pochettino pazzuglia. E me ne sono andato io, ho lavorato un anno da una parte, un anno dall'altra, ma ero giovane, non lo potevo permettere, io me ne sono andato anche in Belgio perché volevo vedere il Belgio, come l'ha fatto, me ne sono andato a lavorare in Belgio, sono andato a lavorare in Francia, sono fatto musica, però i giovani, sai, le assassi di licenza le fai, ma anche perché vuoi conoscere un po' il mondo, per non dire gli esistenze in quel buco. Però dopo, quando uno si stanca, dice, beh, adesso me ne torna a casa, grazie, che fa tutto, e vedi il sistemato. Poi torni a casa e casi sempre le cose che lo vedi, il giorno di peggiorata, e tu ritrovi quello che hai lasciato, praticamente niente è migliorato, perché sì che sarebbe migliorato. Beh, infatti io quando ero là stavo bene, quando ero là l'ultimo posto che stavo lavorando era una cantina di vita, è vero, che mettevamo il vino in bottiglia, il cuore mettevamo in bottiglia e diciamo che lavoravo sempre 8 ore, però ogni mese c'avevo il cassetto, era assicurato, era regolare, tranquillo, capito? Quello lo so, come di lontano dalla tua città è quello che c'è. Beh, il K il clima più o meno era lo stesso di qui, perché io ero a Nice, Costa Azzurra, così che non è che e avevo la montagna da una parte e il mare dall'altra. Poi io ho un amico per dire che Alessandro che lavora e mi ha detto già, io non cambierei mai Sassari o San Venia con nessun'altra città. Adesso per dire Alessandro dice si alza la mattina, apre le finestre, lo vede il palazzo che c'è di fronte, sempre nebbia, sempre nebbia, sempre freddo. E che passa se abbiamo un barcone, vedi tutti i gatti, noi non si vede nulla, rubano la villa a gas. Sì, certo, quello sì, anche per il tempo. Diciamo che qui, essendo in un'isola, non abbiamo l'inquinamento che hanno loro giù, perché loro giù incumba un po' tutto. E invece qui viene un corpo di vento, per dire si può dare a abbiamo quella fortuna lì, però abbiamo la sfortuna pure che sì che abbiamo molta ignoranza, sì che abbiamo molto molto sistema che uno deve lavorare per calcinare, perché non è che uno vuole fare non lasciano fare, o se non hai calcinato, se non hai conoscenza non fai niente. Sì, ma anche lì è così, perché lo so, io amici, amiche che la di Sassari lavorano lì, e cosa sono entrate? Perché avevano fatto gli altri che conoscevano e le fate entrare, quindi non mi dice lavoro si trova molto più facilmente, vai per dire un po' se trovi l'altro. Ma guarda, io sono amico che sono là, lui lavora sempre per conto suo, qualche volta mi ha dato qualche lavoretto, qualche cosa, cioè lo sai che questo è un pochettino grigia pure per loro, perché con questi altri comunitari che vanno a lavorare così è un gran casino, vanno tutto corto perché non hanno la casa, non hanno quello da pagare, non hanno quell'altro, però intanto loro lavorano su no. E anche in Germania. A pagarla, tutto il mondo è paese, non è più come prima, che andavi a trovare lavoro, tranquillo. Adesso quando ci sono queste sue comunitari ti guardano già male. Io non sono un artista, però dico prima pensate alle persone qui, poi se c'è posto me la venga anche loro. Io dico questo, adesso io non è che voglio né giudicare né criticare né niente, però io non so per questo. Tutti parlano la fama del terzo mondo, di questo, di questo, di quell'altro, va bene. Però se noi ci dovessimo invertire, anziché essere loro che vengono qui, noi che andiamo là, a noi ci sparano, ci ammazzano come cani, ci guardano male. Cioè non è che puoi andare in giro qua a stare come loro fanno qua. Loro oltre che fanno quello che gli pare piace, sono anche protetti. Cioè non gli puoi fare un'osservazione che se ti chiamano la polizia lui c'ha ragione perché sono miei, e tu perché sei dal posto sei tonto. Cioè non stiamo invertendo i ruoli quasi quasi. Che questi di fuori ci possono cagare in testa, poi dicono una poesia, loro lo credono e a te non ti credono. Perché lui sta così è straniero, non ha interesse di dire la bugia. Però per l'artista se li rispondo. Perché vedi bene che non è così come appare, cioè tu qui vuoi venire in Italia, sì, sbloccamento, consigliato, sì, lavoro, ti fai quello che vuoi, però sempre con le regole italiane, non che vieni qui, devi essere anche protetto, gli davano anche il sussidio appena arrivati. E come l'ingegnere di 4 cose ogni fatto la gas. Arrivato la gas, Allora si chiede Mercedes. Ah, faccia rossa, tutta la luna. Ma tu hai bisogno compresa. E tu se ti pigli un pezzo di macchina, certo, quello che ha comprato la macchina nuova, vuol dire che tu sei italiano. Ho che sto prendendo droga, subito dico. Ma sono le prime cose, Sono le prime cose. Perché io quando mi ho guidato la macchina, dopo due giorni che ce l'avevano, non mi hanno fermato. Bella questa macchina, come l'hai comprata? Pari mesi. Rende, cosa rende? Ma se andate a lavagliare, sappi, e un amico paghi. E tu te l'hai per scarabini? E allora? E come si permette? Si permettono, fanno anche di più qualche volta. A me una volta mi hanno fermato, ma sto tornando alle 4 di mattina da pescare e si sono nascosti dietro l'autotreno. Io la verità mi stavo per addormentare, dico la verità, quindi ho detto meglio che cammini un po' perché se vedo in macchina. E stavo camminando un po', stavo 120 così. A un certo punto da dietro a questo autotreno me ne esce un carabiniere senza parete e senza nulla, mi facevo la mano di fermarmi. Vabbè, mi fermo, si avvicina a fianco alla macchina, mi punta la pila e ho detto, guardi i documenti ce l'ho dietro nella sacca perché sono nella pesca. Gli ho chiesto forse i documenti, ho detto no, ma pensavo che mi avesse fermato, l'ho fermata. E quindi guarda in faccia e mi fa spada. Contra fortezza, scusi, ma io penso di essere un onesto cittadino, perché mi sta trattando in questa maniera? Mi dia una spiegazione. Lei a me così non mi può trattare solo perché ho una divisa. E tutti che sapete, ma detto, si accomodi. Ma così va un mezzo. Sì, mi trovi che sia, sono stato così. Ma me ne hanno fatto anche di più. Allora, un periodo che stavo lavorando con i Deruda lì, il 4 novembre, esco da lavorare e mi sono portato gli attrezzi e sono messo in macchina perché dovevo andare a fare un altro lavoretto a una due ore. E niente, gli attrezzi in macchina, parto io e questo ragazzo e siamo andati a fare quell'altro lavoro. Arrivo sul posto di lavoro, vado a scaricare gli attrezzi. C'era, come cavolo si chiama, D'Artagnan, quello che c'è al distretto, ha pigliato e ha portato un borsello sotto la macchina, adesso c'è la persona. Boom, si accorge la macchina, adesso può fare pure più delicatamente, che la macchina era mia, non era giusta. E se facciamo anche gli stili giusti. Boom, va, dove stai andando, cosa stai andando a fare con questi attrezzi, sto a lavorare, sono uscito a lavoro, mi hanno chiesto un favore, non è solo per i soldi, ma anche a titolo di cortesia, che devo, documenti, bomba, la bolla per questi attrezzi, ce l'hai, allora, no, io bolla la testa, sono lì, sto lavorando lì, e l'ha detto da lì, sto andando lì a fare questa commissione, che ha detto, sì, erano sempre gira, chissà che cosa cavolo stavano cercando. All'ultimo pigliato gli ho detto al ragazzo, vada fino a tesoro, mille luci dove vogliono far lavorare. Fino a tesoro, quando è andato il ragazzo a dire che mi aveva fermato la polizia, ecco, si è ritirato, ho detto, come mai, come non mai, che lì non si più, vado, c'è del soldi. Sai che mi hanno tenuto 3 ore lì, mi hanno perso tutta la lavagna, mi hanno bucato tutto il gatto da dentro la lavagna. Mi hanno tenuto 3 ore lì, e io non so che manco pagoso, sei bucato. Anche droga, è la squadra antidroga, ma se ce l'ha con lui è la squadra antidroga. Cioè, vedi che sto uscendo da lavorare, cazzo, sto andando a lavorare un altro, ma è finito, ma è fatto, fa cosa? Ma non può interessarsi da venire. Se è stato venendo di droga, non è stato fatto un carriaggio, non ti pare. Lo so, non dico che c'è il caso, ma molti hanno anche un lavoro di copertura, lo fanno venire, fanno un altro lavoro, e non si sono per correndo, ma... Perché è molto bello, non vedo mai più di un miliardo da al mercato. Quando se la sono avuto fuori a casa? Allora, noi l'abbiamo avuto fuori a casa. Ma se per questo abbiamo avuto anche pure più che a casa, che erano fidanzate con drogate, e quando sequestravano la droga, poi la davano alla ragazza. Allora, lasciamo finire, l'abbiamo visto di tutti i colori già. Non è niente di animisti dell'asse, no? No, senza dubbio sono per colonnello anche lì. E anche lì, se i carabinieri, che era il capitano dei carabinieri di Porrotta, vedevano trovato il continente e la droga. E quel carabiniere che invece stava chiedendo la tangente alle negre, che si sono messi a voce ed è intervenuta la polizia. Sono loro ricordo, era anche, quello era anche un graduato. Ancora meglio, ma lasciamo perdere, io ho visto anche i poliziotti lì a Platamona scopandosi le negre. Sì, in intanto si avvicinano, stanno parlando, vedo. No, ma io li ho visti proprio scopando, che sono entrato lì apposta perché finisco pure il punto per essere più chiari. Hai visto quando uscivi da Platamona dalla Butibus dopo la fattoria, anche di andare al terzo fine, e ti adesso per andare al terzo sorto. C'è quell'albergo lì a sinistra. Dopo l'albergo c'è quella piazzuola che c'è il canale che poi sbuca in spiaggia. Ho capito. Abbiamo visto di tutti i colori, solamente che molte volte rompono la scatola che non le devono rompere. E quando ci sono quelli che invece dovrebbero andare a rompere la scatola hanno paura di tutti i bambini. Vanno negando il resto di un bambino. No, comunque, nel mondo del paese ci sono i bravi cattivi e strappati. Gappa gappa. Adesso te ne faccio un po' l'altra. Mi sono per casa mia, c'è. Ciao, pa. Ciao, bella. Ed è andato a caccia. Andato a caccia e non sapevano dove andare praticamente, erano un lino, un morese. Hanno pigliato e sono saliti su al motorco bene. Siccome si dovevano pigliare le poste, le cose, no? E si sono un po' appisolati in macchina, sono arrivati i carabinieri, i fumetti, si ristappa le cose che facevano lì, che non siamo qui perché dobbiamo fare le poste per fare la caccia. E l'ha anche detto, siamo qui per pigliarci le poste perché è il posto di caccia. A un certo punto mi fa prendere la lavagna e gli fa aprire il cofano. Fa aprire il cofano e gli ha detto i fucili. Comandà, qui ci stanno pure i fucili. Se stanno andando a casa li devono avere i fucili, no, scusa. Allora, l'hanno fatto un casino adesso, gli hanno tenuti 3 ore per questi fucili, con l'arma, quello, quell'altro, che non hanno fatto un casino, ma sono di una stupidità enorme. Purtroppo si informa in tutto e per tutto, si informa K di Roncio, lo so, poi con la domanda lì. dice che fanno bene gli spetti perché rompono i muretti. Una volta questo qua, questo tassista abusivo che era fatta a cena della zona di Livorno, non mi ricordo se ha proprio il ruolo nella zona, è tornato proprio nella macchina, ha trovato tutti i vetri spaccati, le proiettili e le robe tutte bucate, non so di argomenti fa. Se lo va a passare, andate a un gommista, nessuno sa trovare però un gommista. Dice guarda, una cagarella di notte mi sono messo pensato dentro la macchina, ma anche da questi vetri svuoti, tutto quanto. Ne basta per sentire, invece come se a dormire, non riesce a dormire la cagarella, sempre col fucile carico. E meno guarda si è avvicinato di solito, dice una paura, guarda. Ma guarda che quando si capita così, il primo che ti si presenta davanti, vuole volare, magari con una velocità. Lui dice che secondo lui l'hanno fatto perché qualche cacciatore gli ha buttato un muretto a secco in terra e lì non perdonano. Ciao, ciao. Ciao, Davide. Non è insomma ancora Uci. No, sono appena che entrato. E ho sentito, ma dopo era un po' preoccupato. Allora, l'uomo marro, no, sono a casa a mezzanotte. E lasciaci cischiare. Ehi, è mai detto. Speriamo che non anche sia rimasto lo detto. Se no poi ci avrà anche i pochini più a casa, la seconda testa, più un po' mia, vai. Ehi, cappa cappa. E di essere ridi. Andare da. Vipi la casa almeno un po' là, ma no, che non ti drommi. No, il bello è che poi la mattina quando lo chiamo va a 5 minuti. Ma tutti sono così, uffa, mia figlia dice uffa, lasciami dormire, che presto. No, peggio, di più. Ma che ne sono? 6:30, Ma se mi così presto lo sveglia? Beh, lui si deve fare la doccia prima di uscire, no? Si deve profumare, si deve cambiare, se non si sa. Se non si muove tutto il gatto in etichetta, non esce da casa. È giusto che sia così. Guarda, per tirare le signorine adesso. Adesso il bello tira. Bravo Mariolica, calda, che io mai devo lavorare. Tu no, ma io sì. No, anche io devo lavorare fino a mezzogiorno e devo andare pure a Morel. Tu domani che fa lavorare, ma non sei libero il sabato. No. Il sabato di mattina c'è a mezzogiorno, qualche volta anche se ne va una, ma di solito c'è a mezzogiorno. E lui deve andare a scuola, così che dobbiamo alzarci tutti e due presto. Vabbè già, prima di quelli casi, guarda quella cosa, se eventualmente ci riesci, se no unica. O se fai sonno, gocca, ti ha fatto il fine, esatto. Io adesso fai là. Speriamo che ci sia ancora, perché mi pare che erano poche ore. Non mi ricordo quante, però era poche ore lì. Fede Pedro l'ho telefonato subito per avvisarlo. E adesso vediamo. Ok, ciao Mario, ci sentiamo una volta. Ciao, buonanotte già, a domani. Ciao, buonanotte. Ciao, Davide, ciao.